Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Io mi limito a un breve saluto perché credo che sarà una mattinata abbastanza densa. Sappiamo tutti che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha faticosamente concluso la fase, un decennio praticamente, di tentativi di riforma dei trattati europei, una fase che era stata avviata nel 1999 dal Consiglio europeo di Colonia, Consiglio che nelle sue conclusioni, ci ricorda spesso il professor Rodotà, dichiarava che la legittimazione dell'Unione europea si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Il Trattato di Lisbona, che ha avuto fra gli altri il merito di unificare il quadro giuridico e istituzionale europeo, di attribuire efficacia giuridica vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, ha complessivamente visto realizzarsi in parte le aspettative di maggiore democrazia e maggiore efficacia dell'integrazione europea, quantomeno proprio nell'ambito delle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, perché è proprio in questo settore che sono avvenute le modificazioni più rilevanti, specialmente per quanto riguarda il diritto penale e processuale. Sicché possiamo attenderci e cercare di ottenere che grazie alla lisbonizzazione di quest'area si ridimensioni anche l'ottica securitaria che ha ispirato gran parte degli interventi, anche occasionali, spesso nel decennio precedente. La piena efficacia delle innovazioni introdotte in questo campo dal Trattato di Lisbona si avrà a partire dalla fine del 2014, allorché cesserà il periodo transitorio per le misure di cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato. E proprio nel secondo semestre del 2014 la presidenza del Consiglio dell'Unione sarà affidata all'Italia. E ci è sembrato perciò utile avviare tempestivamente un dibattito sui molti temi che in questa materia ci appaiono rilevanti almeno agli occhi di chi, come il gruppo di esperti europei in materia di diritti fondamentali, il Free Group, e l'osservatorio della Fondazione Basso sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, European Rights, continuano ad avere a cuore aspetti che sono spesso trascurati nelle discussioni sul cammino dell'integrazione europea. E consentitemi a questo proposito di uscire per un attimo dallo specifico campo oggetto del nostro seminario per lanciare uno sguardo più generale alle politiche europee degli ultimi due anni, che hanno visto l'Europa preda di una crisi finanziaria ed economica originata al di là dell'Atlantico, ma certo favorita dall'assenza di politiche di contenimento della sregolatezza finanziaria e degli eccessi della ideologia neoliberista anche da parte dell'Unione Europea. La necessità di adottare interventi urgenti per arginare la crisi dell'Eurozona contro l'opposizione di alcuni stati euroscettici ha fatto sì che questi interventi diventassero oggetto di appositi accordi trattati internazionali, il cosiddetto Fiscal Compact, il Salva Stati, il Meccanismo Europeo di Stabilità, che sono stati quindi conclusi al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione. Questo era già avvenuto a proposito dei trattati Schengen e Prüm, che poi però sono stati riassorbiti nel quadro dell'Unione. Ma questa conclusione di nuovi trattati internazionali ha avuto effetti molto negativi in termini di procedure democratiche e di rispetto dei diritti fondamentali. E anche questi sono temi che in futuro dovremo affrontare perché sono strettamente legati al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini europei. E tutti coloro che, come noi, sono convinti europeisti sanno che dobbiamo certamente, sì, in molti settori ancora cedere sovranità. Però non possiamo in nessun modo per questo perdere democrazia. E l'unico modo di farlo consiste nel portare più democrazia e maggiore rispetto dei diritti fondamentali a livello sovranazionale, dove si decidono e si decideranno questioni che sono in precedenza erano di competenza delle politiche nazionali. E questo è anche l'obiettivo di questo seminario per quanto riguarda le politiche relative alla libertà di circolazione, alla cooperazione giudiziaria, all'immigrazione, all'asilo, alla repressione della criminalità anche economica. Si tratta perciò di assicurare nel modo più ampio il ruolo decisionale del Parlamento europeo nella definizione e nel controllo di queste politiche e di garantire la pienezza del controllo giurisdizionale anche a livello europeo sugli atti che le adottano e che le implementano. Ma non basta. Il rispetto delle procedure parlamentari e del controllo giurisdizionale assicura legittimità alle decisioni adottate. Ma la democrazia non si esaurisce nel rispetto delle procedure. La democrazia implica una partecipazione organizzata dei cittadini nella definizione delle politiche e questo a sua volta richiede la creazione di una sfera pubblica europea, alla cui costruzione intendiamo fornire il nostro piccolissimo contributo anche oggi, che sia consapevole di comuni valori e del comune destino e che porti quindi all'accettazione di soluzioni anche sgradite, purché siano espressione della volontà della maggioranza dei cittadini e non siano, e ne appaiano, imposizioni di poteri esterni, siano governativi o non, e che quindi possano essere modificate, o si possa pensare che possano essere modificate, dal prevalere di scelte politiche diverse nell'ambito di una corretta dialettica contesa democratica. E solo così potremo costruire una efficace e condivisa integrazione europea. Non spetta a me entrare nei singoli temi che sono all'ordine del giorno, sicché cedo senz'altro la parola all'ideatore di questo seminario che è Emilio De Capitani. Mi limito ad aggiungere che dal 12 al 14 di giugno di quest'anno viene organizzata una grande conferenza internazionale che è stata approvata e finanziata dall'Olaf, nella quale discuteremo per l'appunto del rispetto dei diritti fondamentali, in particolare di carattere procedurale, nella prospettiva della istituzione del nuovo procuratore europeo. Chi di voi non ricevesse le comunicazioni della Fondazione Basso e desidera poi invece essere informato di questa successiva iniziativa può lasciare il suo indirizzo mail nell'atrio. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, permettetemi di rilanciare quanto Elena ha appena detto, richiamando il cos'è questo Fundamental Rights European Experts Group, che è stato costituito a ottobre dello scorso anno e di cui sono presenti alcuni autorevoli esponenti come Stefano Rodotà, Elena Paciotti stessa, Valerio Nida, che è immagino sulla strada per raggiungerci qui. È un gruppo di esperti e accademici, ma esperti di alto livello, di diversi paesi europei, quasi una ventina, e accomunati dall'avere seguito nel corso degli ultimi anni la faticosa crescita dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un obiettivo che è nato formalmente con il Trattato di Amsterdam nel 1999, quindi in teoria è relativamente recente, ma che in realtà fonda le sue radici in si potrebbe dire risalendo persino alla prima dichiarazione sull'identità europea del 1973, che enunciava la necessità di costruire l'impresa europea intorno a valori condivisi e valori legati al patrimonio costituzionale comune dei suoi Stati membri. Stati che si sono aumentati nel corso del tempo, è mai inutile qui fare un breve richiamo dell'evoluzione storica dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Quello che è sorprendente è che nonostante 9 anni di faticosissimi negoziati abbiano permesso di riprendere nel Trattato di Lisbona il messaggio certamente nuovo del Trattato Costituzionale, quello che è successo nei 3 anni successivi è stato praticamente una sorta di blocco dell'attività delle istituzioni, il che è paradossale, perché gli alibi che prima venivano presentati, la presenza del principio di unanimità, la non competenza della Corte di Giustizia, la limitata competenza del Parlamento europeo, sono stati rimossi dal Trattato di Lisbona. Quindi era abbastanza sorprendente che non si liberassero quelle energie che sembravano dormienti. Il Fundamental Rights European Expert Group intende fare luce su queste dinamiche, favorire una maggiore conoscenza di quanto avviene o non avviene a livello dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri in questo particolare campo delle politiche pubbliche europee, per una semplice ragione, perché queste sono di fatto il nucleo di un futuro ordine pubblico europeo, in quanto si trasfigura nella cooperazione sovranazionale le tradizioni politiche e istituzionali degli Stati membri e si deve definire un modello nuovo. Questo modello nuovo non è ancora chiaro, anche se la Corte di Giustizia nel corso degli anni ha dato dei riferimenti in buona parte ripresi nel Trattato Costituzionale e nella Carta. Il rapporto e nelle relazioni fra le istituzioni e soprattutto nelle relazioni fra istituzioni e cittadini è ancora ben lontano dall'essere chiarito. Questo fa perdere progressivamente credibilità all'intero progetto. Questo avviene nei negoziati quotidiani sui testi legislativi, come anche nelle numerose iniziative che continuano a essere prodotte nella più assoluta oscurità in Consiglio e in Commissione, per esempio in materia di sicurezza interna. E tutto ciò non può far bene a un obiettivo dell'Unione Europea che ha come propria ragione d'essere proprio quella di mobilitare il dibattito politico e la presenza dei cittadini. È interessante notare che il Trattato di Stoccolma, dal quale noi vogliamo partire oggi, ha riconosciuto l'ambizione e la portata dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ma non ha sviluppato le potenzialità che esso ha nell'ambito del nuovo trattato. Quindi l'obiettivo del Fundamental Rights European Expert Group e dei suoi membri, che a loro volta hanno reti di collegamento, penso per esempio anche a Henri Labail, che è presente fra di noi, che è membro e che è autorevole esponente direi dell'intelligenza francese su questo tema, è quello di, non dico guidare, ma accompagnare un dibattito in questo momento relativamente limitato sul futuro di questo ordine pubblico europeo, in modo da poter, nel corso della prossima legislatura, in coincidenza con l'inizio della presidenza italiana, come ricordava Elena Pacciotti, avviare non solo una nuova legislatura, entrare in una nuova fase a pieno regime dello spazio di libertà, ma definire anche il primo programma, il Trio Presidency Program, dalla metà del 2014 alla fine del 2015, che porterà progressivamente a integrare le politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia con le politiche generali dell'Unione. Quello che dobbiamo, credo, ottenere e promuovere è quello che in francese si dice il décloisonnement delle politiche dello spazio di libertà e al tempo stesso il rafforzamento delle sue specificità. Per far questo ci vuole capacità strategica, visione e una gran voglia di lavorare, perché, come si è scritto recentemente, l'Unione Europea è una grande portaerei che richiede un'estrema abilità, e non faccio riferimento ad altri incidenti navali degli ultimi tempi, per poter cambiare direzione. Per cominciare a cambiare direzione e ottenere qualche risultato nel 2014 bisogna cominciare nel 2013. Questo è probabilmente una delle missioni che il nuovo governo dovrà porsi, e questo richiederà un'incredibile capacità dialettica, diplomatica, burocratica, proprio perché basterà segnalare il fatto di volere cambiare i rapporti di forza e gli equilibri fra le istituzioni in questo campo per determinare inevitabili controreazioni. un dossier come quello sull'accesso ai documenti, che è stato bloccato proprio dopo la sentenza della Corte che liberava e rendeva la trasparenza come un fatto fondamentale, è purtroppo un brutto segno in questo senso. Comunque non voglio anticipare molti dei temi che verranno fuori dal seminario, è solo l'inizio. Noi ci auguriamo come Free Group di organizzare nel corso dei prossimi mesi anche delle summer school indirizzate a accademici, studenti e funzionari, proprio per aiutare la preparazione di questa presidenza italiana. Comunque seguiteci con attenzione. Grazie. Passo la parola al Luigi Berlinguer, che è stato il relatore per il visionario a parere del Parlamento europeo su quello che Stoccolma avrebbe dovuto essere, che purtroppo è stato solo in parte. Io vorrei portare, visto che dobbiamo stare nell'estrema sintesi a giudicare dal programma, uno spaccato particolare in questa discussione, che mi deriva dalla duplice circostanza che io sono nel Parlamento europeo e che sono nella commissione IURI, che è la commissione che si occupa, diciamo così, della giustizia in prevalenza della civilistica. E visto che c'è una divisione del lavoro, la commissione giustizia, che si chiama giuridica stranamente, e la commissione libertà, dove invece prevale l'interesse e dei diritti fondamentali e della penalistica. E vi riassumo la cosa che io vorrei dire, nel senso che questa tematica, salvo alcuni aspetti molto limitati, è una tematica che prevalentemente interessa un'elite di cosiddetti tecnici. Io la considero una tematica centrale che fonda la cittadinanza, e considero la tematica della cittadinanza un presupposto essenziale del processo di integrazione, nel quale noi stiamo procedendo con estrema timidezza ed estrema lentezza, specialmente ora nel mezzo della crisi, intanto in quanto più Europa è ripetuto costantemente, ma è un processo che non cammina con la risolutezza necessaria. E questo lo dico anche non solo criticando duramente il modo in cui nella campagna elettorale i temi dell'euroscetticismo vengono strumentalizzati in un modo pericoloso per la formazione di una parte dell'opinione pubblica, ma anche perché a questo il movimento progressista risponde, dicevo, con timidezza, per tema di perdere. E François Hollande ha fatto la sua parte non totalmente negativa in questo. Anche in Italia qualcosa del genere si riesce a dire a denti stretti, ma io sento che siamo al di sotto della necessità di riuscire a coniugare che non c'è politica di progresso che non sia quella che passa attraverso l'integrazione. Le soluzioni euroscettiche o le soluzioni di ritorno nazionalistico o le soluzioni di imperante intergovernatività sono elementi di freno persino per la tutela dei diritti fondamentali, soprattutto per fondare una cittadinanza che significhi una disciplina integrata della vita quotidiana dei cittadini. E sostengo da tempo un'ovvietà, che la civilistica in questo aiuta molto di più da questo punto di vista. L'ottica, l'osservatorio della Commissione IURI è quindi di una legge sulle successioni, di una legge sul contratto di vendita, la discussione sulla società per azione europea, sono ottiche che ci dicono come questi fatti toccano una grande quantità di persone, ormai decine e decine di milioni, e non solo nella tematica transfrontaliera, ma vanno a toccare la vita quotidiana, e cioè un fondamento più robusto della democrazia e dell'essere quindi partecipi, persino della cittadinanza europea, ma persino per la democrazia. risolvere il problema della democratizzazione dell'Europa solo attraverso un potenziamento del ruolo con Lisbona dei parlamenti nazionali è insufficiente, non parliamo della crisi della politica nei confronti dei cittadini, ma perché il ricorso ad un ruolo dei parlamenti nazionali indispensabile ripropone tematiche di interstatualità. È l'unica espressione che limita parzialmente l'interstatualità è il Parlamento europeo, dove i gruppi politici sono gruppi politici comuni ai vari stati e le delegazioni nazionali sono una parte più limitata del peso. Allora, perché vi faccio questo discorso? Perché quando noi, ve lo dico autobiograficamente, quando noi andiamo a parlare nei nostri gruppi politici della tematica della vita quotidiana e della disciplina dei rapporti fra cittadini e poi naturalmente anche fra cittadini e Stato, e i dirigenti politici non si interessano minimamente, noi siamo dei tecnici noiosi che non fanno notizia, che non vanno nell'opinione pubblica, perché quando noi parliamo con i cittadini cito sempre la legge delle successioni, che più in modo più interessante ci ha messo a confronto la riserva della legittima nel continente e la reazione durissima contro la legittima in campo anglosassone, voi comprendete come il figlio che sta in mezzo a genitori di diversa nazionalità e che ha l'edificio qua o là come asse ereditario esce pazzo, voglio dire, e come sente l'Europa tutto questo? Faccio un solo esempio, ma ce ne sono decine. Tutto questo impatta con un altro aspetto, che mentre noi andiamo a registrare un ruolo straordinario della Corte da questo punto di vista in tema di lawmaking, cioè in tema di processo giurisprudenziale corposo, insieme naturalmente all'altro tipo di normazione, noi abbiamo la convivenza sempre più fertile come convivenza dei due grandi sistemi giuridici e abbiamo un problema di cultura giuridica europea e di cultura giudiziaria europea, che sono due aspetti diversi. Questo è uno dei temi del programma di Stoccolma, lo abbiamo fatto mettere nel piano d'azione. È programmato, il Parlamento si prodiga in risoluzioni, 3-4 una dopo l'altra, che impegnano la Commissione e che impegnano il Consiglio, impegnano, però tutto questo procede con una grande lentezza, il procedere cioè della costruzione, della formazione operativa, concreta, fatta di rapporti fra colleghi magistrati dei diversi stati che oggi hanno il bisogno di lavorare in termini di cooperazione, non solo perché c'è Eurojust, non solo perché c'è la cooperazione penale civile e così via, ma perché l'Europa della società europea, non degli stati, si sta imponendo sempre più come una comunità societaria che ha degli elementi di comunanza reali. E di vita comune reale fra i diversi cittadini. Io vedo questo distacco delle istituzioni politicistiche che hanno più il senso del confronto politico, dello scontro fra i gruppi, eccetera, eccetera, e invece la realtà di ogni giorno. E sento che una leva, un grimaldello per fondare la cittadinanza su aspetti determinanti della cittadinanza stessa, cioè dell'appartenenza alla comunità europea, deve passare attraverso una esaltazione del ruolo del programma di Stoccolma. L'Europa si è prodigata in queste aree europee, io vivo un altro aspetto, l'area dell'istruzione superiore, higher education, l'area della ricerca, sono aree, sono edifici con soltanto qualche mobile, ma senza persone dentro. Sono un'importante acquisizione, anche l'area di Stoccolma, un'importante acquisizione. Ma se non si procede a riempirle di contenuto, noi non realizzeremo l'integrazione, cioè c'è un difetto di economicismo in questo. Naturalmente l'economicismo è dettato dalla tragedia della crisi, che è più rilevante che trattare del diritto successorio in questo momento. Però non c'è dubbio che se noi limitiamo la cultura dei cittadini, la partecipazione, la sensibilità dell'europeismo soltanto alle questioni della comune disciplina fiscale o degli strumenti del six pack, per dire, o degli strumenti degli euro bonds e così via, che non voglio minimamente considerare roba di secondo piano, è sicuramente una priorità, ma se ci si limita a quello e il contesto della cittadinanza non lo si guarda con la necessità di procedere attraverso lo spazio europeo di giustizia e una maggiore integrazione dei sistemi, delle norme, della funzione dei protagonisti, il magistrato nazionale è il primo magistrato europeo, ancor prima della Corte da questo punto di vista, se non facciamo maturare questa cultura, questo modo di pensare, il cemento comune, per esempio, del magistrato, che sicuramente ha nella giurisdizione un elemento fortemente comune dentro la cittadinanza europea, e certamente nel suo assorbimento dei principi costituzionali e dentro quest'ottica, ma che deve fare i conti con un'eterogeneità normativa che ancora stenta a camminare nella direzione opposta, e noi non riusciremo ad arrivare a questo. Quindi questi punti io considererei anche altrettanto importanti. E arrivare attraverso la presidenza italiana o nella campagna elettorale per l'elezione della prossima legislatura e così via, senza aver sottolineato questo, rischia di farci battere il muso verso forme di euroscetticismo che hanno altra causa e ragione profonda nella vita quotidiana della gente e che noi non riusciamo invece a smontare attraverso questo. Cioè, bisogna politicizzare il principio di cittadinanza attraverso una politicizzazione, che vuol dire rendere sensibile all'opinione pubblica politica la funzione dei diritti fondamentali e quell'intreccio della civilistica che disciplina i rapporti fra cittadino e cittadino. L'ultima battuta, noi abbiamo anche iniziato, Emilio l'ha anche detto 2 o 3 volte, ex novo nella nostra Commissione, l'idea di affrontare l'amministrazione europea, una disciplina dell'amministrazione europea. E siamo presentatori di ipotesi di sollecito alla Commissione come potere di facoltà di iniziativa legislativa, perché dormicchia, non ne vuole sapere, perché di trasparenza trattasi, eccetera, eccetera, del procedimento amministrativo. Noi in Italia sappiamo quanto è costato arrivare alla 241, quanti anni o forse un paio di decenni, e come l'amministrazione resista. Ebbene, noi però abbiamo aperto da un anno la partita. Anche l'Europa ormai non è uno Stato, ma c'è un'amministrazione. E quindi c'è da regolare i rapporti con i cittadini europei, in questo caso totalmente europei, perché hanno il rapporto con l'istituzione. E anche questo è uno spaccato che io farei rientrare nel novero di questa idea dei diritti complessivamente intesi. Adesso dobbiamo spostarci. Certo. Sembra che io occupo contemporaneamente 3 sedie. Erano 3. Metto qua. Dunque passiamo alla seconda parte dopo questa prima introduzione con degli interventi sul quadro costituzionale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Valerio immagino sia sempre tra taxi e altre strade. A lui il tema della descrizione dell'evoluzione del patrimonio costituzionale europeo e a Stefano invece il tema chiave della nuova cittadinanza europea, intesa non solo come scritta nei trattati, ma come dovrebbe animare i trattati in una tradizione sovranazionale. Grazie. Nel titolo di questo mio breve intervento si fa riferimento alla protezione dei dati. Un po' credo, per quello che mi è capitato in una delle mie vite precedenti, però non è inutile fare un riferimento che sarà molto sommario, perché è in itinere annunciato un parere proprio del gruppo su questo. La situazione è ampiamente in movimento, il nostro amico Spiros Simitis fa da, veramente da tutor in questo momento, sostiene che non può occuparsi d'altro, tanto è completamente assorbito da questa questione. Detto questo, e quindi io non entrerò, perché la discussione sulla proposta di regolamento è molto impegnativa, non entro nei dettagli perché solo questo mi porterebbe via molto tempo, ma farei proprio una considerazione che poi riprende quello che ha appena detto Luigi Berlinguer, come si vada in questo momento strutturando la discussione europea intorno alla questione della cittadinanza. Perché più noi guardiamo con attenzione le questioni riguardanti la protezione dei dati, più ci accorgiamo da una parte che l'ambito tradizionale della privacy si va notevolmente dilatando. In secondo luogo che le dinamiche europee in questa materia sono per molti versi anche inquietanti. La prima considerazione è questa, faccio un solo riferimento a un tema che ha suscitato, come dire, davvero un dibattito planetario, e cioè la norma che prevede il cosiddetto diritto all'oblio. Questa norma ha suscitato reazioni furibonde nel mondo imprenditoriale, Google ne ha fatto una vera bandiera di lotta, ma il punto essenziale è che la considerazione del diritto all'oblio riguarda in realtà il profilo dell'identità delle persone. Non è più soltanto una questione di privacy, ma è una questione di identità. E da questo punto di vista il modo in cui è possibile regolare la conservazione dei dati e la utilizzabilità, l'accesso, la diffusione diventa un punto di cittadinanza. E questa considerazione deve essere accompagnata dalle notazioni molto preoccupate che si trovano, avete qui il documento, nella risoluzione di dicembre del Parlamento europeo, che proprio per la materia dei dati personali, in realtà in tutte le questioni delicate, è molto critica. È molto critica e fa nascere una questione che io vorrei sollevare. È assolutamente sempre più palese il conflitto tra il modo in cui la Carta dei diritti fondamentali disciplina questa materia. Sapete che l'articolo 8 ha fatto nascere questo diritto autonomo rispetto alla tradizionale tutela della vita privata, le comunicazioni della Commissione e poi il valore giuridico attribuito dal Trattato di Lisbona alla Carta, la sua posizione fuori dal Trattato, che io mi ostino a ritenere un risultato non negativo, ma in realtà adesso forse il paragone è eccessivo, è come il Bill of Rights, nel senso che poi tutto sommato l'essere fuori dal trattato la mette al riparo da quelle che possono essere modifiche del trattato che ne imporrebbero una lettura sistematica che in questo momento credo è tutto sommato preferibile, che invece ci dia la possibilità di guardare alla carta nella sua forza di documento autonomo. Perché faccio questo riferimento? Perché la possibilità di controllo sugli atti dell'Unione che riguardano queste materie ha dimostrato come peraltro la risoluzione del Parlamento sulla situazione dei diritti fondamentali in Europa nel biennio 2010-2011 una forte debolezza in questa materia. Noi abbiamo avuto praticamente un'assenza della Corte di Giustizia, ma non un'assenza, non c'è stata capacità di iniziativa in tutta questa materia, mentre c'è stata una forte dinamica delle corti costituzionali nazionali, perché in particolare per un punto che poi in qualche modo si ricollega alla questione del diritto all'oblio, cioè i tempi di conservazione dei dati, dopo la fondamentale sentenza del Bundesverfassungsgericht, ci sono stati altri interventi che oggi pongono chiaramente la questione della revisione della direttiva sulla conservazione dei dati. E di questo non c'è traccia in questo momento nella discussione. Quindi ci sono dinamiche che stanno per qualche, se io posso usare questa espressione, rinazionalizzando aspetti fondamentali della tutela, e sono le corti nazionali, non solo le corti costituzionali, che sollecitano sulla base o delle costituzioni nazionali o dei riferimenti espliciti alla Carta dei diritti, sollecitano l'Europa a iniziative che siano tali da assicurare, ripeto, non più soltanto la protezione dei dati intesa dal punto di vista della possibilità di privatizzare la gestione di questi dati, ma come aspetto di identità e di cittadinanza. Che questa sia la logica lo dimostra, e faccio un molto sommario aspetto, la connessione che si stabilisce poi tra questi temi e quelli più generali della produzione di profili individuali, familiari, di gruppo, che è un grande problema per quanto riguarda la costruzione delle identità, la possibilità di stigmatizzazione e di discriminazione sociale. Faccio questo riferimento tenendo conto poi che si sta verificando una singolare situazione, nel senso che l'Europa, che avrebbe tutte le carte per poter intervenire per la storia, per la Carta dei diritti fondamentali, efficacemente in questa materia, è in una situazione di stallo, mentre gli Stati Uniti, che sono stati sempre estremamente ostili all'uso delle norme in questa materia, della legge in questa materia, potrei dare testimonianza nelle due mie audizioni al Congresso degli Stati Uniti, la prima volta sono stato trattato come un autoritario europeo che voleva usare la legge in materia che loro tranquillamente affidavano alla libera determinazione delle persone. Bene, in queste materie particolarmente delicate, cioè quella dell'utilizzazione di informazioni ai fini della profilazione e ai fini della assunzione o del mantenimento nel posto di lavoro delle persone, in questo momento c'è una dinamica che in Europa non c'è, perché negli Stati Uniti è stata pubblicizzata molto la legge californiana, ce n'erano state altre, che vieta ai datori di lavoro di usare le informazioni ricavabili dai social networks, sia per finalità riguardanti la assunzione delle persone, sia per quanto riguarda il tracciare dei profili, soprattutto a fini di pubblicità. Siamo molto nell'ottica della tutela del consumo, c'è anche una legge, c'è un bill presentato in questa materia, proprio un Consumer Protection Online Act, che aveva ricevuto un esplicito endorsement nella passata legislatura da parte di Obama. Ecco, qui c'è un problema, che noi siamo di fronte alle modalità attraverso le quali si ricostruisce l'identità delle persone che, proiettata al di là della semplice sfera del consumo, significa rapporto delle persone non soltanto con le istituzioni, ma con i soggetti economici che in questo momento, virgolette, governano il mondo. Questo è un punto estremamente importante. E ripeto, le preoccupate notazioni della risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2012 mi fanno essere, proprio da questo punto di vista, abbastanza inquieto. Vediamo allora rapidamente alcune altre questioni che poi io ricollego direttamente a quello che ci diceva prima Luigi Berlinguer. E vorrei dire, però facendo ancora un accenno alle questioni riguardanti la raccolta e l'utilizzazione dei dati, come dovrebbe essere, io non ho tutte le informazioni adeguate in questo momento, quindi la butto lì, e se qualcuno ha informazioni migliori, vedo presenze in questa sala che ne sanno certamente più di me, ma rispetto proprio alle modalità di raccolta e trattamento delle informazioni, la norma della direttiva 9546, che poi è entrata a far parte delle legislazioni nazionali, compresa quella italiana, che vieta il ricorso a trattamento a trattamenti automatizzati per quanto riguarda le decisioni rilevanti per le persone, richiederebbero una rilettura, perché ormai questi trattamenti automatizzati sono non solo utilizzati largamente a dispetto della direttiva, ma c'è una complessa giustificazione culturale dicendo che poiché le procedure automatizzate sono sempre più prossime ai procedimenti che le persone medesime potrebbero porre in atto e per il modo in cui le persone le progettano, di aggirare completamente questo aspetto della direttiva. In un momento in cui il problema delle procedure automatizzate è estremamente importante non solo per quanto riguarda le procedure che noi diciamo formalizzate, quelle decisioni giudiziarie e amministrative, ma per tutta una serie di decisioni, in questo la lettura della direttiva e delle leggi nazionali è istruttiva, che riguardano la vita delle persone e la possibilità che venga in vario modo influenzata. Quindi noi abbiamo un intrico di questioni che andrebbe dipanata. Io ho usato il bandolo, molto sommariamente me ne scuso, della protezione dei dati, perché questo era l'ordine di Emilio e ho cercato di obbedire il più possibile. Adesso però vorrei fare altre due considerazioni, perché il riferimento che qui compare alla dignità è un riferimento che noi dobbiamo assolutamente prendere molto sul serio. Prendere molto sul serio, qui ci sono responsabilità politiche e culturali, perché le indicazioni che sono venute bene o male dalla Corte di Giustizia sono in certa misura confortanti, perché almeno due decisioni molto note, una è il caso Omega e una è il caso Brustel, quello riguardante la brevettabilità, poi c'è un aspetto controverso, ma a mio giudizio non correttamente, per quanto riguarda la natura dell'embrione, ma lì il problema era la brevettabilità e devo dire che in queste due sentenze, la prima non facendo direttamente riferimento all'articolo 1 della Carta, perché il riferimento era all'articolo 1 del Grundgesetz, della Costituzione tedesca, la seconda con più diretto riferimento alla Carta, ci dicono non soltanto della rilevanza del principio di dignità all'interno dell'Unione Europea, ma ne fanno uno strumento di controllo dell'attività economica. Attenzione, questo è un passaggio molto importante, perché attraverso la sottolineatura del principio di dignità si individua uno strumento di controllo delle attività economiche, che in questo momento è di particolare importanza, perché quello che sta accadendo è con la radicale caduta di tutela dei diritti sociali, dei diritti delle persone a contenuto economico, i diritti sociali, non i diritti dell'impresa, non i diritti delle banche, scusate la brutalità di questo riferimento, implica il fatto che una serie di misure sono fortemente limitative della dignità delle persone. In questo momento il tema della cittadinanza, e poi ne parlerà certamente molto meglio di me Stefano Giubboni, però io questo riferimento lo volevo fare perché intorno a questo tema la questione della tutela della persona e il problema della cittadinanza diventano molto evidenti. Vi sono in questo momento molti riferimenti che possono essere utilizzati, tra questi la questione dei diritti sociali è assolutamente centrale. Io non voglio dire l'affermazione dell'indivisibilità dei diritti che troviamo nel preambolo e nella struttura della Carta, l'introduzione di tre principi ignoti ai trattati precedenti: dignità, solidarietà e eguaglianza. Elena ricorda benissimo le difficoltà, non sono entrati, la dignità non tanto, ma certamente solidarietà e eguaglianza non sono entrati in maniera indolore nella Carta dei diritti fondamentali, sicché oggi c'è una elevata responsabilità politica e un'altrettanto elevata responsabilità culturale dei giuristi, dico, perché questi che non sono da valorizzare. Io non sono dell'opinione di usare questa terminologia, ma una corretta ricostruzione sistematica di quello che possiamo chiamare quel tanto di costituzionalizzazione che abbiamo in Europa impone questa strada. E se poi noi leggiamo i riferimenti, che sono anche qui una discussione che si è svolta in Europa dopo una dichiarazione anche non, con qualche margine di ambiguità di Juncker a proposito del salario minimo, che è stata rilanciata con riferimento all'articolo 34, laddove si parla di esistenza dignitosa, di riferimento alle condizioni personali, alla lotta all'esclusione, ci dicono che questo è un versante che ci deve assolutamente interessare. Con due considerazioni finali, voi scuserete alla sommarietà, ma i tempi sono quelli che sono. Due considerazioni. Ha già ricordato Luigi Berlinguer, ma questo è tema capitale del dibattito, di come oggi si insista particolarmente dicendo più Europa. Benissimo. Però più Europa per che cosa? Questo lo dobbiamo dire. Più Europa soltanto per un governo ferreo dell'economia non è la strada che io credo aiuti alla creazione dello stesso demos europeo, perché in questo momento l'Europa è percepita in maniera molto netta come lo strumento che sta deprimendo i diritti delle persone. La Carta dei diritti fondamentali è stata concepita esattamente per affrontare il problema del deficit di legittimazione, che è perfino più rilevante del deficit di democrazia, se non è accompagnata dal valore aggiunto dei diritti, l'Europa potrà certamente rafforzare la sua capacità di governo, ma sarà più, non voglio dire nell'ottica che qualcuno aveva paventato qualche tempo fa, piuttosto di una regressione verso un mercato unico fortemente governato, ma certamente la politica sarà la politica economica, e questo è un punto che rispetto a cittadinanza e a diritti fondamentali delle persone rappresenta un elemento sicuramente preoccupante. Ultima considerazione dopo la sentenza Pringle, perché il modo in cui si è venuta riorganizzando l'Europa attraverso trattati internazionali ha indotto la Corte di Giustizia a ritenere che per quanto riguarda lo European Stability Mechanism la Carta dei diritti fondamentali non si applica. Ecco, se no, questa è una breccia molto molto preoccupante nel sistema della tutela dei diritti e della cittadinanza europea, perché non soltanto dal punto di vista di una critica politica e perfino ideologica si mette in evidenza il fatto che la prevalenza, non voglio dire la prepotenza del profilo economico, tende a respingere sullo sfondo e a mortificare i diritti fondamentali, ma questo viene formalizzato. Questo è un passaggio di estrema gravità che noi dobbiamo certamente prendere in considerazione. Grazie. Grazie Stefano, il richiamo alla protezione dei dati che avevo suggerito era perché su questo tema nel corso degli ultimi 10 anni si sono aperti conflitti più evidenti fra le istituzioni e anche fra stati e istituzioni europee. Non è un caso che la direttiva sulla conservazione dei dati che tu hai citato sia stata impugnata davanti a delle corti costituzionali, che la Commissione abbia avviato delle procedure di infrazione, che alcune corti considerino la protezione dei dati come elemento dell'identità costituzionale di quegli stati, come nel caso della Germania, e che quindi in qualche modo il problema della corretta relazione fra identità costituzionali nazionali e una nuova identità costituzionale europea è il problema chiave, perché è quello intorno al quale si gioca non solo la relazione fra gli Stati, ma anche la legittimità rispetto ai cittadini. Su questo tema credo che Ezio Perillo, e cioè sulla autonomia e al tempo stesso la interazione fra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali, ci potrà dire qualcosa, partendo da un tema a lui caro, che è il richiamo alla sentenza Van Gendenlos, che nel 1963 per la prima volta invocò o presentò l'ordine pubblico europeo come un ordine a sé stante e indirettamente coinvolse anche i cittadini. No, lo fece direttamente, se per quello. Ma... grazie Emilio. Oggi qui a Roma credo di sentirmi un pochino pirandelliano e quindi mi scuserete se recito un po' a soggetto. Per anzitutto rispondere, visto che forse abbiamo un po' più di tempo, a due osservazioni, la prima di Luigi Berlinguer e la seconda di Stefano Rodotà. Luigi Berlinguer, quale vicepresidente della Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo, dice che questa commissione è un osservatorio straordinario e ha perfettamente ragione, ma osserva molto, e sotto il profilo della giustizia e in particolare la materia penale, mi consente di dirglielo con molta amicizia, osserva molto ma fa molto poco. Bisognerebbe che invece associasse le sue forze molto di più alla Commissione Libertà Pubbliche e soprattutto associasse molto di più in materia di giustizia e di diritto penale anche i parlamenti nazionali, che sono a mio avviso un ganglo fondamentale per arrivare a quella valorizzazione della cittadinanza a cui lui tiene molto e a cui teniamo tutti in particolare molto. Una parola sulla cittadinanza e la politicizzazione della cittadinanza attraverso il programma di Stoccolma, che vedrà sicuramente la presidenza italiana coinvolta in prima fila, perché sarà sotto la presidenza italiana che bisogna rivedere questo programma. Certo, il cittadino europeo lo si può rendere attento attraverso il riconoscimento di talune prerogative di tipo procedurale, però a mio avviso più della politicizzazione della cittadinanza bisognerebbe fare la giurisdizzazione della cittadinanza e dare ai cittadini dei diritti che loro possono utilizzare non solo uti singuli, come si dice in diritto, ma anche uti cives, e cioè facendo parte di un ordinamento giuridico come quello dell'Unione Europea. Ma so che la Commissione Affari Giuridici ha nel suo programma diverse cose importanti prima della fine della legislatura. A Stefano Rodotà devo dirgli che ha una grande genialità, perché la cosa che ci ha detto oggi relativamente al fatto che la Carta dei diritti fondamentali è fuori dallo schema dei trattati e che ciò avvenne perché paesi come la Gran Bretagna ne volevano ridare una dimensione estremamente riduttiva. Eppure il paradosso politico ha fatto sì che questa carta fuori del trattato abbia una valenza autonoma e una capacità di non essere modificata o rivista attraverso metodologie di tipo intergovernative come sono quelle di revisione dei trattati, ne fa un pezzo di diritto primario dell'Unione Europea straordinario. E in questo volevo assolutamente sottolineare questa sua intuizione, perché oggigiorno non è ancora stata colta a livello di Corte di Giustizia lo dico con un po' di amarezza, questa realtà, perché appunto in questa famosa sentenza Pringle la Corte non ha avuto il coraggio che ebbe invece nella famosa sentenza Van Gendelos. È vero, la crisi dell'euro ha fatto sì che ci sia ancora il predominio della valenza economica sulle cose della vita dell'Unione, però il Trattato di Lisbona ha ribaltato questa logica. Non si parla più di trattati di comunità economiche o di unione economica, si parla di trattati, sia quello dell'Unione sia quello sul funzionamento dell'Unione, punto, non c'è più la parola economia. E nell'articolo 3 del Trattato di Lisbona si ribalta ancora questo fattore, non è più il mercato economico, il mercato unico che è la prima delle priorità, la prima delle priorità nell'ordine voluto dal Trattato di Lisbona è lo spazio di sicurezza, di libertà, sicurezza e giustizia. Cioè quello, ed è la tesi a cui voglio arrivare stamattina, è la nuova piattaforma di lavoro dell'Unione Europea. La crisi dell'euro ci porta ancora su queste realtà, ma spero e mi auguro che invece lo spazio abbia quella priorità e quell'attenzione che appunto gli autori del trattato gli hanno voluto dare per la prima volta. Abbiamo dovuto aspettare il Trattato di Lisbona perché il cittadino, attraverso lo spazio, diventasse effettivamente l'archetipo di tutta la struttura. Domani, ed è forse questa la ragione per cui l'amico Emilio mi ha chiamato, domani è effettivamente il 50° anniversario della sentenza Van Gendelos, una sentenza straordinaria pronunciata appunto dalla Corte di Giustizia per una cosa banale, ancora una volta di mercato. Questa società di trasporti fermata alla frontiera, ricordo per chi non lo sa, alla frontiera tedesca, aveva un carico di prodotti farmaceutici e il doganiere olandese le impone un dazio peraltro di un valore superiore a quello a cui era abituata a pagare prima. La Van Gendelos si rifiuta di pagare questo balzello e va davanti al giudice nazionale, il quale rinvia alla Corte. E rinvia alla Corte questo quesito. C'era un articolo 12 nel vecchio Trattato di Roma che diceva che gli Stati non potevano aumentare i dazi per quei prodotti che da sottoposti al dazio doganale nazionale venivano trasferiti sotto la tariffa doganale comune. Quando questi prodotti mano a mano, perché l'unione doganale venne fatta in meno di 10 anni, no, in una decina d'anni, dal 57 al 68, quando questi prodotti lasciavano la tariffa doganale nazionale e entravano in quella comune, ovviamente dovevano circolare liberamente. Non dovevano più pagare dazi all'interno del mercato comune. E quindi c'era questo obbligo, gli Stati sono obbligati a non aumentare i dazi di quei prodotti che sono entrati nella tariffa doganale comune. E il giudice olandese chiede alla Corte, ma questo obbligo che si rivolge agli Stati può anche fondare un diritto del cittadino, del singolo, in questo caso dell'operatore economico, a non pagare il dazio? E davanti alla Corte arrivano tre governi, quello belga, quello olandese e quello tedesco, e che dicono no, le norme dei trattati sono norme di diritto internazionale, si rivolgono solo agli Stati. Poi gli Stati faranno il loro dovere, e se non lo fanno si faranno delle cause, ci saranno i ricorsi davanti alla Corte per inadempimento da parte degli Stati. Però non conferiscono diritti ai cittadini. E la Corte, nonostante l'avvocato generale tedesco avesse anche lui sostenuto questa linea per cui le norme dei trattati non conferiscono diritti soggettivi, ribalta il pronostico di questa linea. Quando avete tre governi davanti, soprattutto quello tedesco, non è cosa facile. E fu d'altra parte grazie all'ingegno di un grande civilista italiano, che era il professor Trabucchi, che avvenne questa modifica. La sentenza Van Gendelos passò su 7 giudici con 4 a favore e 3 contro. Paradossalmente potrei dirvi oggi che se oggi siamo una comunità di diritto lo dobbiamo a una differenza di un voto. Bene. Allora, che questa sentenza Van Gendelos, per voi che siete abbastanza vicini a questa realtà, è nota come la sentenza che ha creato il principio dell'efficacia diretta, e cioè il fatto che ci sono norme che, pur iscritte nel trattato o in direttive, danno ai singoli dei diritti soggettivi che possono essere, che i giudici nazionali devono tutelare. La sentenza della Corte nella causa Van Gendelos fece 2 prodigi e ne fece un terzo ancora più straordinario. Il primo fu quello di trasformare in realtà i soggetti della comunità non solo in quanto operatori, ma in quanto cittadini. E cioè nella sentenza disse un passaggio straordinario che vi leggo. Gli Stati membri, rinunciando a una parte dei loro diritti sovrani e dei loro poteri sovrani, scusate, hanno creato non un trattato, ma hanno creato una comunità in cui i soggetti non sono solo gli Stati, ma anche i cittadini. In contropartita degli obblighi degli Stati, questi cittadini hanno dei diritti soggettivi che possono far valere davanti al giudice nazionale. La Corte trasformò i cittadini degli Stati membri in cittadini europei e trasformò i giudici nazionali, come ricordava Luigi, in giudici comunitari, ai quali conferì il potere di disapplicare delle norme interne incompatibili. Non c'era più bisogno di andare in Corte Costituzionale per disapplicare una legge nazionale incompatibile con una norma comunitaria. Il giudice nazionale poteva disapplicarla autonomamente. Bene, per fare tutto questo la Corte disse una cosa, ed è la terza, straordinaria. Disse che rinunciando a questi poteri sovrani, gli Stati avevano creato un ordinamento giuridico di nuovo genere nel diritto internazionale. Un ordinamento giuridico di nuovo genere nel quale i soggetti non sono solo gli Stati, ma anche i cittadini. Ebbene, oggi, a 50 anni della sentenza Van Gendelos, la tesi che io vi voglio presentare oggi è questa. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare la materia penale, costituiscono un ordinamento giuridico di nuovo genere, uno spazio giudiziario di nuovo genere, nel quale non ci sono solo gli Stati che sono soggetti, ma anche i cittadini. E quindi il cittadino nello spazio di giudiziario penale di nuovo genere può vantare dei diritti e anche comunque degli obblighi che può far tutelare davanti al giudice nazionale. Non è cosa semplice. Non è cosa semplice perché? Perché la buona parte della dottrina penalistica nazionale, e parlo sotto il controllo del professor Labile, sostiene che la competenza penale dell'Unione Europea è una competenza in materia penale indiretta, cioè può adottare delle direttive nella quale indica dei reati, nella quale indica addirittura delle pene, ma questi standards di livello europeo, cioè le direttive che vengono adottate nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non sono dotate di effetti diretti, non hanno l'efficacia diretta. Per cui una direttiva in materia di spazio, direttiva ovviamente adottata sulla base delle attuali norme del Trattato di Lisbona, quindi pienamente comunitaria, questa direttiva, se non viene attuata dallo Stato, non è e non dà non è efficace immediatamente e non dà diritti. Rimane come una specie di quella che io chiamo una direttiva in bianco, perché siccome contiene delle prescrizioni di reati e di pene, perché queste possono diventare effettivamente applicabili, occorre una legge nazionale di trasformazione o di attuazione. E perché? Perché siamo in materia penale e la materia penale è soggetta a delle particolarità specifiche, come voi sapete: nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege, identificazione di un valore costituzionale come quello dell'antigiuridicità del comportamento lesivo di un interesse superiore e così via. E la norma comunitaria, anche quella dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non risponde a questi crismi, secondo la dottrina penalistica. Quindi, siccome la norma penale comunitaria è adottata da un Parlamento europeo che non ha le specificità di un Parlamento nazionale, insieme con un Consiglio che è composto dagli Stati membri, e avviene attraverso un procedimento legislativo che non è quello nazionale, quindi questa norma può essere adottata, ma perché sia efficace ha bisogno necessariamente di un'attuazione a livello nazionale. Oggi le cose stanno ancora e soprattutto così. E quindi good luck alla presidenza italiana se vuole fare qualche cosa di più in questo senso. Perché good luck? Vi faccio un esempio. Bene, abbiamo una direttiva in materia penale europea, articolo 83 del trattato, che conferisce al Consiglio e al Parlamento la possibilità di adottare direttive destinate a stabilire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave, che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere e dalle implicazioni di tali reati. Stiamo parlando, ad esempio, della criminalità organizzata europea, non di piccole cose. Bene, il Parlamento e il Consiglio possono adottare norme minime relative alla definizione di questi reati, quelli che noi chiamiamo eurocrimini, e sanzioni. Bene, supponiamo che venga fuori una direttiva, ne hanno già adottate altre, non in materia di criminalità organizzata, e che queste direttive appunto fissano queste norme relative ai reati, ma non sono direttamente efficaci. La Francia la trasforma, adotta una legge di attuazione, e l'Italia no. E voi siete disposti a credere che il cittadino francese, poiché ha una norma nazionale di trasformazione, può beneficiare di questa tutela, e invece quando viene in Italia, poiché l'Italia non ha ancora attuato la direttiva, non la trova questa tutela? Presidente, buongiorno. Quindi, per dare efficacia diretta a delle direttive in materia penale, ai sensi dello spazio che io concepisco come un ordinamento giuridico di nuovo genere, non possiamo né affidarci al Parlamento europeo, ancora meno al Consiglio e ai governi degli Stati membri, ma c'è solo un organo che può farlo, così come lo fece 50 anni fa per quanto riguarda i diritti relativi alla libera circolazione delle merci. Ed è la Corte di Giustizia. A quando una sentenza van Gendelos della Corte di Giustizia in materia di competenza penale dell'Unione Europea, una sentenza van Gendelos che dica A, che lo spazio costituisce un ordinamento giudiziario penale di nuovo genere. Non dobbiamo rimanere sempre incapsulati nello stesso paradigma nazionale. L'ordinamento comunitario, definitelo come volete voi, ma non sarà mai uguale all'ordinamento federale tedesco. da qui la mia posizione molto critica rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca in materia di Trattato di Lisbona. Non può essere, neanche con tutta la buona volontà, uguale a un ordinamento federale tedesco, ma avrà le sue caratteristiche e sarà comunque democraticamente legittimato, perché se i se gli Stati membri hanno trasferito delle sovranità a delle istituzioni, queste istituzioni esercitano queste sovranità con la stessa legittimazione che in cui le esercitavano prima le istituzioni nazionali. Non è che la sovranità, passando a livello europeo, perde di legittimità, la mantiene esattamente come ce l'aveva prima. Ebbene, e concludo, una sentenza Vangendellosi in materia di spazio, di libertà, sicurezza e giustizia, che riconosca effettivamente che lo spazio è un ordinamento di nuovo genere, che le norme che vengono attuate sono norme perfettamente legittime, che sono delle norme che hanno un'efficacia diretta, e cioè che danno ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare, devono far rispettare. Un procuratore nazionale deve poter effettivamente agire sulla base di quel crimine e di quella pena che è stata stabilita a livello europeo. Una Vangendellosi in materia penale a favore appunto di quella cittadinanza che deve essere prima di tutto una cittadinanza uti cives, cioè che quindi dia al cittadino il vero ruolo di pilastro di questa nuova realtà europea. Vi ringrazio. Sono sicuro che troverai subito un interlocutore che solleverà qualche dubbio su alcune delle tue interpretazioni. Io mi limito solo a ricordare che nell'ambito del diritto internazionale ci sono già organi, penso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che adottano provvedimenti che sono stati considerati, in certa misura anche a torto, come quasi immediatamente applicabili, per esempio in materia di blocco dei beni dei presunti terroristi. A parte questo, il bello dell'avventura europea è proprio questo di dare la possibilità di crescere a un nuovo ordinamento europeo, un nuovo ordinamento pubblico europeo che interagisca con quelli nazionali. L'arrivo del Presidente Valerio Onida mi permette di riaprire il discorso sul patrimonio costituzionale comune e di come su questo patrimonio un nuovo modello europeo si possa costruire. Grazie, anzitutto io vi chiedo scusa perché purtroppo, nonostante le frecce rosse, il ritardo dei treni mi ha impedito di essere qui fino all'inizio, quindi di seguire le altre relazioni. Io vorrei fare un po', come dire, un passo indietro, spesso voi state già discutendo del futuro del diritto europeo, ma vorrei ricordarvi che siamo in una fase di transizione, una transizione direi accelerata, ma se proviamo a pensare, fino a un decennio fa circa, l'Europa era essenzialmente mercato unico, non c'erano diritti fondamentali, meglio c'erano, ma c'erano i diritti dei trattati, che erano essenzialmente i diritti di libertà di stabilimento, di libertà di circolazione, di merci, capitali, persone, e libertà di concorrenza, ma il tema dei diritti, della sicurezza e della giustizia era fondamentalmente appannaggio degli stati nazionali ancora, 10 anni fa, non tantissimi, 12 anni fa. Il tema dei diritti fondamentali nel diritto europeo compariva essenzialmente come riferimento appunto a quel patrimonio costituzionale comune, ai principi comuni del diritto costituzionale degli Stati membri, quindi era un po' un diritto costituzionale risultava appunto dal diritto costituzionale degli Stati membri. E questi principi integravano un embrione di diritto costituzionale europeo, ma appunto un embrione che nasceva dai diritti costituzionali degli Stati membri. E la garanzia dei diritti allora stava essenzialmente nelle costituzioni nazionali e negli strumenti di tutela giudiziaria che le costituzioni nazionali prevedevano e prevedono. Facciamo il discorso dell'Italia, per esemplificare. diritti fondamentali fino appunto a poco tempo fa erano i diritti costituzionalmente garantiti, i diritti quindi che trovavano il fondamento della Costituzione. La garanzia di questi diritti era la garanzia giudiziaria, ad opera di un potere giudiziario costituzionalmente previsto come indipendente. L'articolo 24 della Costituzione, diritto al giudice e quindi tutela giudiziaria dei diritti. C'era poi la giustizia costituzionale che era, diciamo, intesa, come ben si sa, non nei termini della giustizia costituzionale americana, cioè del judicial review demandato a qualunque giudice, ma una giustizia costituzionale nei termini della tradizione europea kelseniana, cioè l'affidamento a un organo ad hoc, la Corte Costituzionale, posto un po' allo snodo tra legislatore e giudici. Tant'è vero che, come è noto, la composizione delle corti costituzionali si rifà essenzialmente ai legislatori, ai parlamenti. In Germania addirittura tutti i giudici costituzionali sono eletti dal Parlamento, in Italia per fortuna una soluzione più mista che quella tedesca non avrebbe funzionato, in Italia probabilmente. Ma comunque certamente la Corte Costituzionale non è un organo del potere giudiziario comune, per così dire, si colloca un po' allo snodo, all'incrocio, diciamo, fra legislatore e... In altri paesi, europei, la garanzia giudiziaria dei diritti fondamentali trovava già anche una specifica attuazione in termini di una giustizia costituzionale, perché come è noto in Germania e poi anche in Spagna, eccetera, il ricorso costituzionale individuale, per farsi un Beschwerde, dava ai cittadini uno strumento ad hoc, apposito, sia pure suppletivo rispetto alla garanzia data dal potere giudiziario ordinario, diciamo, davanti alla Corte Costituzionale. Questo però in Italia non c'era e non c'è, e soprattutto l'altra gamba dell'Europa, cioè il Consiglio d'Europa, perché noi parliamo sempre dell'Unione Europea, ma c'è anche il Consiglio d'Europa che nasce grosso modo nello stesso momento, nel 49, no? La Costituzione del Consiglio d'Europa, di fatto aveva, per quanto riguarda la prassi giuridica e giudiziaria, un rilievo molto minore, affidato essenzialmente ai meccanismi tradizionali del diritto internazionale, cioè erano impegni che lo Stato aveva preso in Consiglio d'Europa, le convenzioni, la CEDU, in Italia è dal 55 che la CEDU è diritto interno, nel senso che è recepita nel diritto interno, ma appunto nei termini tradizionali del diritto internazionale, quindi con la forza giuridica propria delle leggi di recepimento, della legge di attuazione, quindi nel caso dell'Italia della legge ordinaria, e impegni degli Stati, ma non diretta valenza, diciamo, per i cittadini. Allora, certo, non risale a poco tempo fa, ma molto tempo fa, per l'Italia, diciamo almeno al 1984, il diverso impatto che il diritto comunitario, cioè il diritto di quella che oggi è l'Unione Europea, allora erano le comunità europee, hanno avuto ed hanno negli ordinamenti nazionali, perché i meccanismi dell'effetto diretto e del primato, sentenza Granita, appunto, 1984, facevano sì che questo diritto europeo potesse avere una diretta e un'immediata traduzione e valenza nell'ambito del diritto nazionale attraverso i giudici comuni, ma appunto allora il diritto europeo che passava attraverso l'effetto diretto e il primato nei sistemi nazionali era essenzialmente il diritto del mercato unico. Tant'è vero che insomma, tutte le prime questioni, le grandi questioni che si sono poste erano questioni di tipo economico. Mentre al contrario il tema dei diritti fondamentali della persona era semmai, si vedeva, considerava allora piuttosto come una diga nei confronti di eventuali violazioni derivanti dal diritto europeo. Il tema dei controlimiti, quando la Corte Costituzionale nell'84 e anche prima disegnò questo controlimite dicendo diritto europeo ha immediata efficacia, è primato, però c'è un limite, è quello dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione. Proprio ai diritti inviolabili si rifece la Corte per dire, attenzione, c'è un patrimonio di diritti fondamentali che non può cedere nemmeno al nuovo assetto del rapporto tra il diritto nazionale e il diritto europeo in termini di effetto diretto e di primato del diritto europeo. Quindi i diritti fondamentali allora comparivano in questa cultura, potremmo dire, appunto, tradizionale, ma non sono tantissimi, non è un secolo fa, insomma, essenzialmente come limite all'ingresso del diritto europeo, sia pure per limite potenziale, limite che non veniva poi di fatto, ma che serviva proprio anche, come dire, a porre l'ordinamento europeo nelle condizioni di dire, beh, attenzione, che i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nazionale non sono disponibili, devono essere rispettati. Ecco il patrimonio comune che entrava anche in Europa. E il sistema della CEDU, che è proprio invece un sistema di tutela dei diritti fondamentali, perché si ricorda bene che il Consiglio d'Europa nasce proprio sul, diciamo, in derivazione della Dichiarazione Universale dei Diritti. La CEDU nasce come derivazione della Dichiarazione Universale e il Consiglio d'Europa ha tra i suoi scopi fondamentali quello della tutela dei diritti umani. Mentre la Comunità Europea nasce per fare il mercato unico, il Consiglio d'Europa nasce per tutelare i diritti umani. E la CEDU c'era, infatti, dal 1955, però di fatto, data appunto l'assetto in cui si collocava, cioè come diritto internazionale tradizionale, il ruolo della CEDU nel sistema nazionale di protezione dei diritti fondamentali era un ruolo relativamente secondario. Infatti, se nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad esempio, la CEDU, la Convenzione Europea, veniva già allora richiamata, citata, non frequentissimamente, ma con una qualche frequenza, ma essenzialmente a rafforzamento, a conforto di quello che già dalla Costituzione nazionale si ritraeva. Quindi per interpretare la Costituzione si faceva anche riferimento alla CEDU, ma non c'erano casi di conflitto o di cose in cui la CEDU andasse oltre la Costituzione. Quindi i parametri essenziali della tutela dei diritti fondamentali in termini soprattutto di controllo, di judicial review, di controllo delle scelte del legislatore, rimanevano i parametri costituzionali interni, le norme costituzionali sui diritti. Ora, nell'ultimo decennio, potremmo dire, sono intervenuti qua, da questo punto di vista, dei cambiamenti radicali, dei quali noi oggi parliamo, però sono cambiamenti recenti, quindi bisogna anche capire la dimensione temporale in queste cose conta. Il primo cambiamento è il protocollo 11 della CEDU, cioè da quando la CEDU, pur rimanendo convenzione internazionale legata agli Stati membri attraverso i tradizionali meccanismi della ricezione nel diritto interno, però introduce il ricorso diretto dell'individuo a tutela dei diritti fondamentali. E quindi il cittadino che può direttamente andare a Strasburgo e chiedere tutela laddove ritiene che le autorità nazionali le abbiano violato un diritto o non abbiano sufficientemente tutelato. E quindi l'introduzione del ricorso individuale davanti alla Corte di Strasburgo dà una nuova dimensione, perché diventa la giurisprudenza di Strasburgo cresce enormemente di importanza ai fini della vita concreta del diritto. E l'influenza della CEDU su tutte le attività degli Stati membri, comprese tra l'altro quelle derivanti dal diritto comunitario, quindi quelle di attuazione del diritto comunitario, cresce ovviamente. C'è una tutela del diritto, che è il diritto del diritto nei confronti dello Stato, sia che lo Stato agisca in quanto Stato nazionale, sia che agisca in quanto Stato che fa parte della comunità europea, poi dell'Unione, e ne attua le norme. E in Italia appunto il passaggio è che c'è il diritto individuale e a partire dal 2001 per l'Italia c'è il riconoscimento che non solo questi sono diritti che l'individuo può far valere direttamente davanti alla Corte di Strasburgo quando non abbia avuto in termini suppletivi rispetto al diritto nazionale, cioè quando non abbia il diritto sia stato violato dalle autorità nazionali, ma la CEDU diventa anche norma vincolante per il legislatore, quindi norma superlegislativa, sia pure non parificata alla Costituzione, perché la nostra Corte Costituzionale dice ancora che la CEDU si colloca sotto la Costituzione ma sopra la legge, e quindi se per ipotesi la CEDU o la giurisprudenza di Strasburgo violasse principi costituzionali non sarebbe da applicare, ma si colloca sopra la legge e quindi può essere parametro di valutazione nel judicial review e quindi parametro a cui si può direttamente far capo per la tutela dei diritti individuali in giudizio. Certo, questa particolare collocazione della CEDU nel nostro sistema risponde anche alla caratteristica che ho già richiamato prima del fatto che in Italia non c'è il ricorso costituzionale individuale. In Germania la CEDU è suppletiva, certo, ma arriva dopo che, semmai, la Corte Costituzionale ha prima conosciuto normalmente è così, ha prima conosciuto di quell'eventuale violazione del diritto e ha potuto restaurarla sulla base dei parametri costituzionali nazionali. In Italia non abbiamo il ricorso individuale diretto e quindi il ricorso alla CEDU diventa un po' il succedaneo del ricorso individuale, tant'è che oggi i costituzionalisti discutono seriamente del fatto che sarebbe opportuno introdurre anche in Italia il ricorso individuale diretto alla Corte Costituzionale come rimedio interno, che dovrebbe essere esperibile ed esperito prima di chiedere la tutela sovranazionale alla CEDU. Questo non so se si arriverà mai, certamente siamo lontani da un obiettivo di questo genere, però la discussione è aperta proprio perché si riconosce che il sistema di tutela per l'individuo deve prima trovare rimedi interni adeguati. La CEDU obbliga come primo obbligo agli stati, che impone agli Stati, è quello di prevedere rimedi adeguati, rimedi efficienti alla violazione dei diritti e quindi rimedi interni. E quindi il ricorso individuale costituzionale sarebbe probabilmente da questo punto di vista il migliore rimedio. E questo fatto che invece, mancando in Italia il ricorso individuale e diventando la CEDU un parametro di riferimento per i diritti fondamentali in maniera molto più incisiva di quanto non fosse prima del 2001, prima del riconoscimento della CEDU come parametro di legittimità delle leggi, vanno emergendo aspetti nel diritto nazionale che prima rimanevano un po' in ombra e che sono aspetti nei quali la tutela dei diritti non era sufficiente, non era adeguata. Ogni ordinamento ha proprio le sue caratteristiche anche storiche. Ecco, ci sono nel campo dei diritti fondamentali, c'è questa caratteristica dell'ordinamento italiano di avere delle zone, degli aspetti c'era un livello non del tutto soddisfacente, derivante dalla nostra tradizione giuridica. Adesso qua non entro nel dettaglio, ma in materia di garanzie processuali dell'imputato, da noi garanzie, articolo 24, il diritto di difesa c'era abbondantemente, ma per esempio il diritto a partecipare personalmente al procedimento e quindi la illegittimità di un processo contumaciale ove la contumacia non sia voluta, diciamo così, espressamente e consapevolmente dall'interessato, non era così evidente, tant'è vero che noi abbiamo avuto degli episodi in cui proprio l'intervento della Corte di Strasburgo ha obbligato il nostro legislatore a prendere atto che ci volevano tutela di questo diritto di partecipare al processo, oppure ancora il diritto alla prova, il contraddittorio, sappiamo, c'è una casistica abbastanza bella, la durata ragionevole del processo, che ovviamente era un principio che si poteva anche desumere già dalla Costituzione, ma non avevo questo espresso riconoscimento, ce l'ha nella CEDU e la durata ragionevole ha costituito, come ben si sa, per l'Italia uno dei punti deboli, dei punti caldi del contrasto del nostro ordinamento ancora con i diritti fondamentali della CEDU, ma anche sulla retroattività delle leggi, perché da noi la retroattività è ammessa, salvo la materia penale, salvo le norme incriminatrici, e però si era sempre detto che era ammessa con larga discrezionalità del legislatore. E la giurisprudenza di Strasburgo ha introdotto in questa materia dei criteri, dei parametri un po' più stringenti a tutela appunto dell'affidamento che c'era già nella Costituzione, ma, e per esempio appunto alcune pronunce come ben note della Corte di Strasburgo hanno segnato orizzonti più ampi del divieto di retroattività, diciamo, rispetto a quelli per noi tradizionali. E è significativo che in questi campi, oppure ancora pensiamo al caso classico della tutela della proprietà e dell'esproprio, dell'indennizzo dell'esproprio, dove appunto si è prodotto il primo contrasto, potremmo dire, evidente a livello costituzionale fra tradizionale giurisprudenza interna e giurisprudenza CEDU. È interessante notare che in questi casi in cui la Corte di Strasburgo, la giurisprudenza di Strasburgo porta avanti, apre orizzonti più ampi e diciamo, quindi fa fare passi avanti alla tutela dei diritti fondamentali rispetto a quella che già c'era nell'ordinamento interno, spesso fa riferimento questa giurisprudenza a violazioni non puntuali, non è vabbè, la Diaz o il G8 di Genova, quelle sono violazioni e certamente si dovrà riconoscere che l'Italia ha violato il diritto a non essere torturato o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, ma non perché il sistema italiano non contempli diciamo, divieti e reazioni rispetto a fatti di questo genere, è perché il sistema italiano ha alcune falle come la prescrizione breve, non entriamo nel dettaglio, ma il motivo per il quale l'ordinamento italiano non ha avuto una reazione sufficiente episodi di questo genere è un motivo più di sistema, insomma, non... mentre invece in altri casi, in molti casi, le violazioni che la Corte di Strasburgo nota sono violazioni, come si dice, strutturali, cioè discendenti non tanto da caratteristiche fattuali, ma da norme dell'ordinamento insufficienti o comunque da atteggiamenti dell'ordinamento interno che non consentono una tutela sufficiente. Ed è su queste violazioni strutturali che la CEDU, la Corte di Strasburgo, sta entrando sempre più e sempre meglio, addirittura da ultimo, diciamo, occupandosi quasi più delle leggi che non dei casi concreti, che è in un certo senso un fatto un po' singolare, perché la CEDU nasce per tutelare, per intervenire nei casi concreti, ma invece di fatto sta assumendo un ruolo molto significativo proprio nel campo dell'indicazione di falle strutturali nel sistema interno. E questa è una prima grande rivoluzione, il primo fattore che ho detto che in questi 10 anni ha spostato, e nasce nel 98, perché è il protocollo 11, è del 1998, non è degli anni 50 o 60. Il secondo, ovviamente, è l'evoluzione del diritto europeo comunitario, e quindi anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ho detto questo diritto che nasce essenzialmente come diritto del mercato unico sta diventando anche invece diritto che si occupa di altre cose, e quindi di libertà, di giustizia, e quindi maggior rilievo dei diritti fondamentali nel diritto europeo, di diritti fondamentali diversi dal diritto alla libera concorrenza, alla circolazione, alla libera circolazione sul territorio e allo stabilimento. E l'avvento della Carta di Nizza, che è del 2000, poi segna da questo punto di vista la tappa fondamentale. La nuova Carta dei diritti, che recepisce largamente le tradizioni del patrimonio costituzionale comune, le tradizioni comuni degli Stati membri, ma va anche oltre per certi aspetti e comunque consolida. Devi andare. Ciao. Ciao Luigi. Carta d'inizio con le due tappe, prima come carta e poi come luogo integrativa dei trattati col Trattato di Lisbona. È chiaro che questo porta una forza espansiva, porta la forza espansiva propria del diritto europeo comunitario, cioè quella che passa attraverso l'effetto diretto e il primato, lo porta a dare una nuova valenza ai diritti fondamentali. Perché l'effetto diretto del primato, tra l'altro senza incontrare il limite della Costituzione interna, perché rispetto al diritto comunitario, al diritto europeo comunitario, la Corte Costituzionale non oppone un controlimite derivante dalla Costituzione, come lo oppone alla CEDU. Oppone solo il controlimite tradizionale dei principi supremi, quindi nucleo essenziale dei diritti inviolabili. E quindi il diritto europeo comunitario, questo nuovo diritto europeo che tutela i diritti fondamentali, non solo più economici, entra nell'ordinamento interno con la forza propria del primato del diritto europeo. Questi sono i passaggi epocali. Ci sono problemi aperti. Io indicherei almeno due i problemi aperti. Il primo è il rapporto fra espansione dell'area dei diritti fondamentali garantiti su base europea, e i problemi delle identità costituzionali degli Stati membri. È il problema che pone la Corte Costituzionale tedesca, ma che anche Strasburgo ha cominciato a porsi. Cioè, fino a che punto questa mettere in comune un patrimonio di diritti fondamentali deve arrivare anche a negare o a indebolire le particolarità, le peculiarità dei diritti nazionali. Ora, fin quando il diritto europeo, sia CEDU che UE, il diritto europeo in tema di diritti fondamentali, si esplica nel garantire minimi inderogabili per quanto riguarda la CEDU, o uno zoccolo europeo di tutela dei diritti, liberi gli stati di garantire di più, ma non di garantire di meno, nulla questo si potrebbe dire, perché in effetti abbiamo la famosa tutela multilivello. Il livello che sta più in basso garantisce tutti, e poi via via ci sono altri livelli che possono garantire qualcosa in più. Nulla questo. Però i problemi nascono quando l'interpretazione evolutiva delle convenzioni del diritto europeo eventualmente. Scusami se sono, faccio una brutta figura, ma io sono entrato con il mio zaino con cui. Ah, e non ce l'hai più? E l'ho messo all'inizio. Non è rossiccio, non è questo. Ecco, l'hai trovato, però male. Figurati Luigi. Mi spiace di non potermi intrattenere con te, ma adesso hai un bel fardello da portare. Allora dicevo, se è un problema di minimo inderogabile e poi di gradini superiori di tutela, non è un problema facile. Insomma. Il problema è quando invece l'interpretazione evolutiva, in assenza di un consenso europeo, quello che la Corte Edu chiama consenso europeo, suggerisce livelli di tutela di diritti che vanno a scontrarsi con altri diritti, per esempio, classico caso, diritti che tra di loro possono collidere e fra i quali si deve operare un bilanciamento. Allora, in tema di bilanciamento non c'è più il problema dei livelli inferiori e superiori, per cui ogni livello può garantire di più, fermo restando che è il minimo inderogabile, perché i bilanciamenti, se vanno a favore di un diritto, vanno a scapito di un altro. E quindi chi fa il bilanciamento finale? Il diritto europeo si prende anche il compito di fare tutti i bilanciamenti possibili in materia di diritti fondamentali, o devono rimanere dei bilanciamenti, o rimangono dei bilanciamenti affidati agli Stati membri? E qua, diciamo, la Corte europea ha qualche segnale di attenzione a questo tema, la Corte europea di Strasburgo. Strasburgo l'ha dato questo, qualche segnale di attenzione, appunto, sottolineando il margine di apprezzamento degli Stati. Ma quando, per esempio, poi sono noti i temi, per esempio, in materia di diritti di famiglia, dove lo stato dei diritti del nazionale è molto diverso, dal matrimonio omosessuale alle adozioni, la procreazione medicalmente assistita, non è diritto di famiglia, è diritto delle persone, ma insomma siamo là in quel terreno, no? Quando la sentenza Costa e Pavan, la Corte europea di Strasburgo, non solo entra immediatamente nel tema nazionale senza badare al fatto che non c'era stato nessun giudice interno che aveva, quindi diciamo scavalcando il tema della come si dice, la sussidiarietà della tutela europea, nessun giudice italiano era stato chiamato a pronunciarsi sul caso, e la Corte europea si pronuncia direttamente sostenendo che tanto non è vero, perché ci sono poi i giudici nazionali che si sono pronunciati, si sono pronunciati, quindi. Però ecco, segnala il problema, può la Corte davvero arrivare, non in termini di sussidiarietà, a garantire in casi concreti, tra l'altro neanche livelli minimi di tutela inderogabili, perché in questo caso l'accusa, anche fondata, diciamo, che la Corte di Strasburgo ha fatto all'ordinamento italiano, non è di non aver garantito dei minimi inderogabili, cioè non ha detto che la CEDU richiede assolutamente di riconoscere il diritto alla fecondazione eterologa, non l'ha detto nel caso austriaco, non l'ha detto nel caso italiano, però in quel caso l'italiano non è la fecondazione eterologa, ma è la questione della diagnosi preimpianto. Però l'accusa che viene fatta in questo caso è un'accusa di incoerenza all'ordine, fondata, ripeto, ma incoerenza all'ordine, che è la classica questione di costituzionalità, articolo 3, ragionevolezza. È la classica questione di costituzionalità. La fa in nome della Convenzione, in nome del diritto europeo, in nome di quello. E poi allora non si capisce, se l'ordinamento europeo coerentemente non arriva a un certo livello di tutela, va bene, se invece incoerentemente predispone un certo livello di tutela in un campo e poi non in un altro, allora interviene la Corte di Strasburgo. E qua siamo di fronte a un vero problema, perché appunto è il problema dei margini di apprezzamento, che non vi dico che sia un problema che vada risolto, è un problema, ecco, bisogna non dimenticarselo. Più in generale direi che si pone di fronte a questa espansione, questo fenomeno positivo di espansione dell'area dei diritti fondamentali e quindi anche i nuovi diritti, diverso atteggiarsi di diritti tradizionali, si pone il problema fra tutela da assicurare in sede giudiziaria, quindi con diritti inviolabili che davanti al giudice si fa valere l'individuo, e tutela o assetto di questi diritti che spetta in qualche modo al legislatore interno di interno o eventualmente internazionale, ma insomma comunque un legislatore di proteggere. E qui secondo me un po' si pone anche rispetto all'Europa UE il tema del diritto penale, perché è chiaro che il diritto europeo, mano a mano che si occupa sempre di cose diverse, si trova di fronte all'esigenza di sanzionare adeguatamente i comportamenti che sono violatori posti in violazione delle esigenze fondamentali del diritto europeo, e quindi il ricorso alla pena come sanzione, sia pure d'estrema razza, non dimentichiamo mai, estrema razza, il diritto penale è l'estrema razza, deve essere così, dovrebbe essere così nei diritti nazionali, in base alla Costituzione, e dovrebbe essere così nel diritto europeo. Però è chiaro che il diritto penale è storicamente intessuto di alcune garanzie. La prima è la garanzia della legalità, cioè senza norma incriminatrice non ci può essere diritto penale. Allora, finché non c'è una norma incriminatrice, non una norma che dice gli stati debbono punire, debbono sanzionare con pene adeguate, eccetera, eccetera, ma una norma che dica chiunque faccia questa cosa è punito con, e quindi bisogna fare norme incriminatrici, individuare con precisione i contorni del fatto di reato, perché il principio di tassatività è un principio fondamentale dal punto di vista costituzionale e anche l'Europa non può ignorarlo. E deve prevedere con precisione le pene. Non è che prevedere pene che diranno gli stati. Non credo. Cioè, occorre che perché nasca un vero diritto penale europeo, occorre che nascano norme incriminatrici europee che abbiano le stesse caratteristiche delle norme incriminatrici del diritto nazionale, che sono soggette a delle garanzie che sono chiaramente irrinunciabili. Questo non è un problema, attenzione, di legittimazione, non è che gli organi europei sono meno legittimati, perché giustamente, diceva Perillo, se c'è una cessione di sovranità, la legittimazione sta tutta dentro. Ma è un problema di modo in cui si esercita la sovranità. Perché nel diritto penale anche la sovranità interna si esercita vincolata ai principi di legalità, stretta legalità, tassatività, eccetera, eccetera. E allora l'Europa non può pensare di operare nello stesso campo ignorando quelle garanzie. Ecco un problema che si pone. Il secondo problema è quello dei rapporti CEDU-Unione, quindi Corte di Strasburgo, Corte di Lussemburgo. L'Unione non ha ancora aderito, forse non è un caso, non ha ancora fatto questo passo di adesione alla CEDU che pure il Trattato di Lisbona ha segnato. E la CEDU, la Corte di Strasburgo a sua volta su questo tema non è ben chiara, perché la famosa sentenza Bosphorus è una cosa strana, perché dice gli stati sono tenuti, però se c'è un sistema di tutela equivalente io non mi... Ma la Corte di Strasburgo, la CEDU nasce come sussidiarietà quando gli ordinamenti interni non tutelano adeguatamente. Può la Corte di Strasburgo fermarsi di fronte al fatto che esiste un altro sistema di tutela, quello europeo comunitario, e dire io qua allora non entro? No, non dovrebbe poterlo fare, perché la Corte di Strasburgo nasce come garanzia di un livello minimo inderogabile di tutela dei diritti fondamentali che scatta tutte le volte che quei diritti sono stati ignorati o violati dagli ordinamenti degli aderenti, degli stati membri. Quindi da questo punto di vista l'adesione della UE non è tanto alla CEDU, non sarà tanto così il compimento di un processo storico evidente, perché alla CEDU si è sempre fatto riferimento nel diritto comunitario da un punto di vista di proclamazioni normative, ma sarà la definitiva riconoscimento che anche l'ordinamento delle UE è un ordinamento interno da quel punto di vista. La tutela della CEDU è una tutela ultima che arriva dopo, quando gli ordinamenti interni non hanno funzionato adeguatamente. E tra gli ordinamenti interni non ci sono solo gli ordinamenti degli Stati membri, ma ci sarà anche l'ordinamento dell'Unione Europea. Quindi si dovrebbe ripristinare questo discorso di Corte EDU, necessariamente è l'ultima parola in tema di diritti fondamentali, se no che Corte Internazionale dei Diritti è la tutela? All'ultima parola, ma interviene in termini di sussidiarietà a garantire un minimo inderogabile come nei confronti degli Stati membri, quindi salvando tutti i margini di apprezzamento degli Stati membri e domani dell'Unione Europea, perché anche l'Unione Europea come ordinamento interno, tra virgolette, da quel punto di vista avrà il diritto al riconoscimento dei propri margini di apprezzamento come ce l'hanno gli Stati membri. Se sono questi i problemi, i rapporti fra le due corti, come si pongono? gelosie, rivalità, ma certamente ci sono anche, parliamoci chiaro, sono leggibili questi fenomeni. E io direi qua, primo, occorre che le corti si pongano nella posizione di dialogo fra di loro e non di rivendicazione reciproca. No, sono prima io, prima tu, tutte le corti, corti nazionali e corti europee, perché dovrebbero concorrere alla costruzione di un diritto europeo comune, che sarà garantito, dovrà essere garantito dai sistemi giudiziari interni e dell'Unione, e poi in ultimo trova sussidiariamente la forma di tutela dello zoccolo minimo nella Corte di Strasburgo. E le corti sovranazionali, anche la Corte Edu qua, devono però appunto fare i conti con questo problema delle differenze nazionali e domani anche delle differenze rispetto nel diritto dell'Unione, cioè appunto costruire i margini di apprezzamento, che non possono essere volta per volta, a seconda se sono stato più simpatico o meno simpatico, essere ampliati o ristretti. I margini di apprezzamento dovrebbero essere uguali. Vuol dire che da fin qua arriva la tutela assoluta e inderogabile della CEDU, da là in poi lo Stato membro o la UE ha il suo spazio. E dicevo, soprattutto, come dicevo, nei casi di collisione fra diritti e di bilanciamento, in cui il margine di apprezzamento non può che essere più ampio, perché si tratta appunto di bilanciare diritti diversi e non di riconoscere un livello A o un livello B più alto allo stesso diritto. C'è tutto il tema dei diritti sociali, per esempio, come sapete la CEDU non nasce ignorando i diritti sociali, perché non a caso il Consiglio d'Europa e la Convenzione Europea nasce sull'ispirazione britannica. I britannici erano contrari ai diritti universali di tipo sociale, non sono riusciti a farli escludere dalla Dichiarazione Universale dei Diritti, che infatti comprende i diritti sociali, ma quando si fece il Consiglio d'Europa e si fece la CEDU, li esclusero. Non è un caso che poi adesso la Corte di Strasburgo, anche lavorando sul diritto della tutela della proprietà, protocollo 1, costruisca una sorta di diritti sociali, o lavorando sull'eguaglianza, per esempio, molto, costruisca anche un qualche misura di diritti sociali a livello europeo, però non può far dimenticare che il sistema di tutela dei diritti fondamentali della CEDU è un sistema che nasce per i diritti civili e politici. E invece qua la UE, no, perché la UE, proprio perché si è occupata fin dall'inizio di economia e di mercato, non può non costruire un proprio sistema di diritti sociali, perché altrimenti si ha un nuovo sbilanciamento. E quindi qua, secondo me, è il campo in cui più è aperto lo spazio di intervento anche alla Corte di Giustizia. E la spinta all'integrazione dell'Europa non può non passare anche attraverso la costruzione di un tessuto di diritti sociali, non dico uniformi, ma certamente almeno conformi a un certo a certi standard. E qua c'è il problema inglese, come è noto, cioè, quando avete discusso della carta di Nizza, credo che il problema sia stato abbondantemente evocato, appunto. E da ultimo vorrei ricordare il tema dell'eguaglianza, ultimissima notazione, perché l'eguaglianza, come si sta un po', è di casa in tutti i diritti ed è un aspetto dei diritti. Si potrebbe parlare del diritto all'eguaglianza, non lo so, ma insomma c'è l'eguaglianza. E non c'è dubbio che mentre nella UE il tema dell'eguaglianza è storicamente e comprensibilmente sempre stato trattato come diritto, come eguaglianza fra i cittadini della comunità, e quindi esclusione di discriminazioni su base nazionale, ma tra cittadini degli Stati membri, e su questo terreno ha fatto molto l'UE e gli Stati nazionali, anche l'Italia ha dovuto spesso scontrarsi, diciamo, trovarsi adeguare il proprio ordinamento. La CEDU, perché in quanto diritti umani, in quanto diretta discendente della Dichiarazione Universale, non tutela l'eguaglianza fra cittadini europei soltanto, e tantomeno fra cittadini della UE, che è un pezzo della CEDU, sono 27 sui 47, ma tutela l'eguaglianza fra uomini e donne, fra persone. E qua, per esempio, tutto il tema dei migranti e del diritto delle migrazioni, sia a livello nazionale sia a livello europeo, e ne viene in campo. L'eguaglianza tra le persone umane, l'eguaglianza nel godimento dei diritti umani fondamentali, non può distinguere fra comunitari ed extracomunitari, perché altrimenti ricreiamo a livello comunitario la vecchia discriminazione della cittadinanza. Ho finito. Grazie. Allora, discussione, Elena, vuoi coordinare tu gli interventi o chi vuole intervenire? Allora, Ignazio Patrone, il primo, si era già preparato come una molla. L'argomento mi interessa, no? La molla deriva dal rimbalzo. Facciamo venire qua l'interventore. Mi presento brevissimamente a chi non mi conosce, sono un magistrato della Procura Generale della Cassazione, ma in questo momento, per le bizzarrie della storia, mentre in Procura Generale mi occupo di civile, la Commissione Europea mi ha nominato in un gruppo di esperti sulle politiche penali dell'Unione Europea dopo Lisbona, in base a un curriculum evidentemente un po' invecchiato, ma che hanno riconsiderato quando facevo un po' più penale. E per di più partecipo anche per il mio ufficio a un tavolo di consultazione che è stato istituito presso Eurojust di procuratori generali dell'Unione Europea, sempre su questo argomento. Quindi ho occasione 4-5 volte all'anno di partecipare a tavoli nei quali i punti di vista sono quelli di 20 persone che provengono da 15 ordinamenti nel gruppo di esperti e addirittura di 27 uffici di procura generale per quanto riguarda il tavolo presso Eurojust. E io ritengo che il punto di equilibrio che si è raggiunto col Trattato di Lisbona in materia penale e di procedura penale sia un punto di equilibrio ragionevole. Innanzitutto ha dato una dimensione costituzionale al diritto penale e processuale penale che col Trattato di Amsterdam non esisteva. Il Trattato di Amsterdam si muove essenzialmente su un piano di cooperazione e di compatibilità. Cooperazione fra Stati e autorità giudiziarie e compatibilità fra ordinamenti. Diciamo che il mutuo riconoscimento basato sulla mutua fiducia, quando è stato scritto il Trattato di Amsterdam, era più così, una speranza che un elemento reale, tant'è vero che c'è stata una notevole fatica dal 99 al 2002 alla messa in opera dei primi strumenti, debolissimi come erano le decisioni quadro, senza controllo della Corte di Giustizia, senza procedura di infrazione, quindi elaborati sulla base di un procedimento legislativo dell'Unione già debole anche politicamente, iniziativa del Consiglio, quindi tutta all'interno della logica interstatuale. Lisbona ha fatto una rivoluzione che però obbliga l'interprete a tutti i livelli ad assumere egli stesso una dimensione costituzionale del diritto penale, processuale e penale. Dimensione che non c'era o era una dimensione, riprendo le parole del professor Onida, difensiva, cioè la dimensione costituzionale era va bene purché non si superino i limiti, e da lì il problema di verificare nelle varie decisioni quadro nella materia la compatibilità di volta in volta addirittura di singole disposizioni con i sistemi nazionali, ma era un lavoro un po' interessantissimo, molto utile anche, ma in qualche modo legato a un'analisi puntuale, caso per caso, punto per punto, che non dava, ma raramente dava il quadro d'insieme di cosa si andava a modificare. Si può dire che l'unico provvedimento di effettivo enorme impatto è stato il mandato d'arresto europeo. Il mandato d'arresto europeo che ha abolito la procedura di estradizione, anche se poi scopro che tutti la continuano a chiamare estradizione, cosa che mi colpisce moltissimo. Nei tavoli a cui partecipo io, extradition, vabbè, ho capito. Sì, no, ma nel senso anche un po'. Ma c'è un trascinamento culturale un po' di resistenza. C'è anche un po' un atteggiamento di resistenza. Un po'. Sì. No, ma qualche volta non devo dire a lei, professore, la parola tradisce anche l'intenzione, no? E il mandato d'arresto europeo in questo momento davanti alla Corte di Giustizia, davanti a molte corti nazionali, è in sofferenza perché è stato redatto con molta fretta, trasposto con una asimmetria notevolissima da Stato a Stato e si stanno moltiplicando i casi. Quindi non è escluso che occorre in tempi non proprio biblici metterci le mani. Comunque è stato l'unico forse vero elemento di modifica a livello di Stati membri del loro sistema, consentitemi un'osservazione adesso un po' a braccio, ma insomma l'unico che è molto visibile, mutamento. E adesso dopo Lisbona non è più così, perché è stato ricordato, è possibile emanare norme penali in forma di direttiva, norme di procedura penale sempre in forma di direttiva e norme di organizzazione giudiziaria, addirittura un procuratore europeo antifrode in forma di regolamento. Non entro in dettaglio, le discussioni sono interessantissime, sono serratissime, però esiste già questo diritto nuovo. Allora, ci sono due direttive in materia di diritto penale sostanziale che hanno sostituito due decisioni quadro. Se avete voglia, nell'appunto le ho scritte. Sono le prime del post-Lisbona, non prevedono ancora limiti minimi e massimi di pena, ma che è una delle possibilità, ma prevedono una descrizione molto dettagliata della condotta vietata, del precetto e della necessità sanzionatoria. Ma sono riflessi anche, questo sulla cultura italiana non è stato secondo me ancora adeguatamente valutato, non di norme solo di diritto penale, come lo intendiamo noi, sostanziale, ma riflettono politiche criminali, nel senso che comprendono norme che riguardano poi, per esempio, la protezione delle vittime, un trattamento speciale da dedicare a chi, norme di collaborazione di giustizia, diciamo, chi denuncia, entra in un certo circuito. Adesso, anche qui senza entrare nel dettaglio, è un salto qualitativo. Ma il salto qualitativo ci sarà se, come spero, io auspico, entro l'anno dovesse terminare la codecisione, che attualmente è in fase avanzata, sulla nuova direttiva PIF, protezione degli interessi finanziari. Perché questa direttiva PIF comprende invece delle norme che stabiliscono limiti minimi e massimi di pena. No, massimi nel senso non deve essere inferiore a, non nel senso... Sì, minimi ma nel massimo anche, cioè, vabbè, è un gioco, sì, non deve essere, sì, è un gioco un po'. Per dare un'idea delle difficoltà che si incontrano in questioni trattative, mi dicono che in sede di codecisione, ma la cosa ha avuto un riflesso molto netto ai tavoli a cui partecipo, i paesi nordici, che a loro volta esprimono un altro sottosistema che numericamente in termini di cittadini forse tendiamo a considerare meno importante del common law, ma invece è importantissimo politicamente e come tradizione giuridica, non tollerano che venga stabilita una sanzione minima, perché questo verrebbe visto come una limitazione insopportabile alla discrezionalità del giudice nello stabilire. Sì, infatti. Ma hanno detto, guardi che veramente, e un collega svedese ha detto proprio, guardate che ci sarebbe una sorta di rivolta del giudice singolo, del giudice comune, non è tanto un fatto. Per cui so che a livello di negoziazione, di codecisione, adesso uno dei temi è anche questo. Questo per dare l'idea del fatto che la prudenza del Trattato di Lisbona, che in materia penale e di procedura penale rafforza il principio di sussidiarietà, lo rafforza molto, perché c'è un richiamo nell'articolo 67 proprio alle tradizioni in materia, ricorda quello che mi diceva un mio antico maestro, il professor Tarello, cioè quando diceva il diritto, specialmente il diritto forte, il diritto che si impone, è fatto di tre cose, dalla legge, intesa la legge scritta o la legge anche consuetudinaria, ma la legge, la norma, l'opinione dei giudici, ma anche il pensiero dei giuristi che la applicano. E in materia penale, è già stato accennato, il pensiero dei giuristi in Europa si è formato secondo tradizioni molto diverse. La società per azioni la si riesce poi in qualche modo a incanalare. Non è un caso che, per esempio, adesso il regolamento più importante in tema di diritto privato internazionale, che è il regolamento 44, è stato profondamente modificato da un nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2015, profondamente, nella parte della giurisdizione no, nella parte dell'esecuzione enormemente, però non è che questo susciti invece i punti sono due, il diritto delle persone, della famiglia e il diritto penale. Lì andiamo a toccare fondamenti, a torto, a ragione, ritenuti però fondamentali. Quindi qui occorrerà uno sforzo. Concludo dicendo che questo sforzo, che io sento personalmente molto forte, faccio molta fatica, perché noi veniamo da un decennio, è inutile nasconderselo, in cui il diritto dell'Unione è stato semplicemente ignorato in Italia. Cioè, noi siamo il paese che è più in ritardo sulla trasposizione di quasi tutti gli strumenti di cooperazione dell'ex terzo pilastro. L'elenco è imbarazzante, siamo l'unico paese a non avere ratificato nemmeno la convenzione di assistenza, mutua assistenza giudiziaria del 2000, semplicemente perché nel 2001 è cambiato il governo e ci ricordiamo i comizi in piazza contro i giudici pedofili di Bruxelles, concetto che è stato usato da ministri al governo allora e che sono ancora sulla breccia. No, perché poi le cose hanno un nome, un cognome e una responsabilità, non è che... E da allora, semplicemente, siccome erano strumenti deboli e non c'erano le procedure di infrazione, semplicemente non sono stati trasposti. Noi siamo l'unico paese a non avere le squadre di polizia investigative comuni, l'unico. Unico vuol dire unico. E noi che siamo un paese che ha bisogno delle misure di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, non abbiamo trasposto alcuna misura in tale materia. Quindi ci presentiamo alla presidenza del 14, una situazione drammatica, perché il 1° dicembre del 14, durante la nostra presidenza, questi strumenti verranno automaticamente trasformati in direttive. Ne cito un altro, perché in termini di cooperazione è anch'esso drammatico, non abbiamo mai implementato la decisione del 2008 in materia di Eurojust, che ha modificato in maniera importante quella del 2002. Nel senso che il nostro membro nazionale, che è pure un attivissimo collega e molto bravo, rispetto agli altri colleghi, è dotato fisicamente di uno strumentario infinitamente più debole, in termini di richiesta dati e in termini di decisioni che può prendere anche nel collegio di Eurojust. Non si muovono in termini di prevenzione, si muovono in termini di misure patrimoniali verso il reato. Se ho detto prevenzione mi scuso. Sì, sì, ecco, questo lei professore tocca un punto essenziale. Noi che abbiamo anche un sistema di prevenzione. No, Allora. Noi questo è un punto di frizione che richiederebbe da solo un'iniziativa. Allora, ci sono misure di riconoscimento, ci sono strumenti eurounitari di riconoscimento delle misure di sequestro e confisca. Noi abbiamo un nostro sistema anche di misure di prevenzione di sequestro e confisca. C'è in corso di discussione, ma non è stata scritta dalla direzione giustizia, è stata scritta dalla direzione affari interni per una questione interna alla Commissione, quindi è anche non facilissimo seguirla, una proposta di direttiva in termini di sequestro e confisca anche a fini di prevenzione, molto più limitata della legge italiana. Ma il problema per noi è addirittura del sequestro e della confisca del provento di reato o addirittura del sequestro durante l'indagine penale. Noi non abbiamo strumenti di riconoscimento reciproco. Poi che avvenga, perché per abilità dei nostri giudici, dei nostri pubblici ministeri, del nostro rappresentante in Eurojust facciamo come se ci fosse, è un altro discorso. Però noi ne abbiamo pochissimi. E no, voglio dire, tutto quello che dovrebbe essere la nostra materia essenziale, semplicemente non l'abbiamo trattata. Allora, in questo quadro, e finisco, qui è stato anche evocato il problema, la dimensione costituzionale del diritto penale e processuale penale, secondo me, lavora su due piani. Lavora su una dimensione costituzionale della legge europea e lavora poi su una dimensione costituzionale della sua trasposizione nazionale. Da lì ne nasce una esigenza da parte del giurista di una forma attentissima di controllo in termini anche di interpretazione, ma ne nasce anche la necessità che a entrambi i livelli siano rispettati i canoni fondamentali. Uno dei rischi che vi può essere in Italia, proprio dato questo nostro mostruoso ritardo, è che si usino a scopi interpretativi degli strumenti nuovi per integrare in termini punitivi il sistema nazionale. È una cosa che viene un po' in mente, perché uno dice, ma per fortuna, invece lì bisogna stare attenti, perché qui andiamo sullo Stato di diritto, andiamo proprio sul suo fondamento essenziale. Quindi occorrerà avere degli strumenti buoni in termini di direttive, ma occorrerà che vi sia una legge di trasposizione nazionale e che le questioni inerenti alla correttezza della trasposizione vengano risolte dalla Commissione e dal Parlamento nelle sedi, e dal Consiglio, nella parte ovviamente di approvazione, perché se no noi andiamo a un punto di frizione che rischia di far saltare l'intero banco, perché la materia è di una delicatezza rispetto al rapporto fra individuo e potere che non devo spiegare a una platea così qualificata. Vi ringrazio. Grazie. Io chiedo scusa, ma seguendo i ritmi tipicamente europei sono costretto a seguire anche quello che il programma aveva previsto e passare alla seconda parte del seminario. Sì, prego. Meglio dal momento che l'unico modo di standardizzare un margine di apprezzamento è fare delle leggi, perché il legislatore fa un bilanciamento e questo accade nel diritto dell'Unione, ma a livello del Consiglio d'Europa, dove abbiamo dei trattati internazionali che sono a geometria variabile sul presupposto volontaristico dell'adesione dei singoli 47 stati, come si può immaginare di ridurre questo margine di apprezzamento, ripeto, a 47, non a livello di... Io non parlerei di standardizzazione, perché il margine di apprezzamento che cos'è? Il margine che resta allo Stato membro o domani all'Unione di libertà di disciplinare una certa materia che incide sui diritti senza violare lo zoccolo minimo. Quindi c'è uno zoccolo minimo di tutela che è inderogabile, e quello lo stabilisce la CEDU, interpretata dalla Corte di Strasburgo. Più in là c'è il margine, che vuol dire non è che il diritto non ci sia in astratto, eccetera, ma riconoscerlo in termini più o meno ampi, bilanciare in un modo piuttosto che in un altro, spetta agli Stati membri. Quindi la Corte di Strasburgo si ritira e negli Stati membri si valuterà sulla base del legislativo dell'ordinamento, sulla base della Costituzione, quale sia il bilanciamento opportuno o giusto. Quindi non è un problema di standardizzare, ma di stabilirlo sempre allo stesso livello. Cioè sarebbe improprio se la Corte di Strasburgo riconoscesse alla Francia un maggior margine di apprezzamento rispetto all'Italia, mettiamo, per la tutela di un certo diritto. Il margine di apprezzamento è ciò che va al di là della tutela obbligatoria, della tutela inderogabile. Al di là c'è uno spazio, e lo spazio è rimesso agli Stati e all'Unione. Poi sarebbe il compito della Grande Camera, qualora ci fosse una differenza di valutazioni così, certo, evidente. No, se ci fossero contrasti di giurisprudenza, appunto, giustamente la Grande Camera, infatti abbiamo visto dei casi in cui la Grande Camera è intervenuta affermando un margine di apprezzamento che la Camera aveva negato, insomma. Comunque, appunto, direi non si tratta di standardizzare, ma di fissare bene il minimo inderogabile. Al di là è margine di apprezzamento. Sempre a livello pretorio. Per forza, perché è uno spazio di interpretazione, qua dato il tipo di norme che sono contenute nella Convenzione. Il dramma è che il margine di apprezzamento è davvero il punto chiave, in quanto il legislatore lascia disposizioni sempre più ambigue e quindi dà al giudice le scelte più difficili. A me viene da pensare, per esempio, come è stato fatto il bilanciamento tra protezione dei dati, adesso Rodotà non è più, e sicurezza delle persone con gli accordi con gli Stati Uniti, con un atto dell'Unione Europea. Io avrei grossi dubbi sul fatto che la sostanza del diritto di protezione dei dati personali sia stata salvata, perché si possono bilanciare i diritti, ma i diritti rimangono, almeno la sostanza deve rimanere, e ho qualche dubbio che sia rimasto. Comunque Roma non si è fatta in un giorno. Passiamo allora alla seconda parte. E a questo punto sono piuttosto le politiche materiali, se vogliamo, dell'Unione Europea. L'obiettivo del seminario è fare venire l'acquolina in bocca per organizzare un altro evento che prenda più tempo. Okay. Passo la parola a Giuseppe Cataldi per l'intervento sulla gestione integrata delle frontiere e il ruolo crescente dell'agenzia di Frontex. Grazie, innanzitutto io vorrei esprimere il mio piacere di essere oggi qui nella Fondazione Basso, perché la Fondazione Basso è un momento, è un luogo importantissimo di coagulo, diciamo, di tanti valori, interessi. Noi dobbiamo essere tutti in prima fila a difendere la Fondazione Basso. perché è importante che, come altre realtà del nostro paese, io vengo da Napoli, dove anche l'Istituto di Studi Filosofici è minacciato nella sua esistenza, nella sua sopravvivenza, sono realtà uniche che un paese civile, un paese sviluppato dovrebbe difendere e valorizzare come suoi fiori all'occhiello, e purtroppo negli ultimi tempi non è stato così, quindi davvero sono contento di questa occasione, anche perché è un'ulteriore riprova della vivacità e della importanza di questa, di questo luogo, di questa fondazione. A proposito di libertà di circolazione delle persone, io sono stato sequestrato da Trenitalia stamattina, perché la Frecciarossa su 80 minuti di tragitto ne ha presi 70 di ritardo, quindi è andata di lusso, no, a me ne ha preso 70 stamattina, no. Quindi purtroppo non ho seguito l'inizio del dibattito, solo la coda appunto dell'intervento del professor Rodotà, ma poi per fortuna ho sentito gli altri, e questo ha portato un po', devo dire, a sconvolgere un attimo la mia scaletta, perché le cose che sono state dette sono di un tale interesse che poi tra l'altro confluiscono anche in quello che dirò molto brevemente anche io, che però non posso fare a meno di ritornarci. Innanzitutto sul problema della diretta applicabilità delle norme penalistiche di origine sovranazionale. Io personalmente mi occupai di questo tema a proposito delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che avevano come oggetto la interdizione in acque internazionali dei tentativi di violazione dell'embargo all'epoca della guerra nei Balcani. Il Consiglio di Sicurezza disse agli Stati: intervenite anche in alto mare, in deroga ai principi sulla libertà dei mari, e sequestrate queste navi che violano l'embargo, portatele nei porti, giudicate l'equipaggio, eccetera. Ma quando questo è avvenuto, cioè quando queste navi sono state portate a Brindisi, a Bari e dai locali tribunali, poi appunto si è stato istruito il processo, naturalmente ci si è accorsi che non c'era la norma incriminatrice, non c'era la sanzione, quindi era una indicazione che poi andava in qualche modo. Questo è stato interessante perché ha dimostrato i limiti della diretta applicabilità anche a chi, come il sottoscritto o altri internazionalisti che da sempre hanno in qualche modo incoraggiato la diretta applicabilità, i limiti appunto che sono quelli che riguardano appunto le fattispecie penalistiche, come è stato già detto. D'altra parte è vero che poi proprio Emilio De Capitani ne ha accennato prima, in casi come quello Cadi, Yusuf, cioè di congelamento di beni di supposti terroristi, laddove non ci sono le garanzie a livello superiore, è l'ordinamento inferiore che deve provvedere a queste garanzie in autotutela, da un certo punto di vista, in applicazione anche di quella teoria dei controlimiti che è stata evocata. Sui controlimiti permettetemi di aprire una parentesi che sembrerebbe non entrarci molto, ma comunque c'entra, e come. Un anno fa l'Italia è stata condannata dalla Corte Internazionale di Giustizia, caso Germania contro Italia, per la questione del diniego della immunità allo Stato tedesco per tutte le questioni che hanno riguardato richieste di risarcimento da parte di eredi di persone purtroppo scomparse e comunque condannate ai lavori forzati durante il periodo della occupazione tedesca in Italia. Qui la vicenda dei controlimiti la questione dei controlimiti è molto importante. Perché? Perché naturalmente quella è una sentenza che ovviamente va eseguita nel nostro ordinamento, c'è una legge adesso che impone l'esecuzione nel nostro ordinamento, perché la legge con cui si è data piena esecuzione alla Convenzione sull'immunità prevede un articolo specifico per le sentenze internazionali che condannino l'Italia. Prima di questa legge, la legge del 22 dicembre, credo che fosse l'ultimo giorno utile per fare questa legge da parte del Parlamento attuale, prima di questa legge, nei mesi precedenti, tre giudici, Tribunale di Firenze, Corte d'Appello di Torino, Corte di Cassazione, con motivazioni, diciamo, l'una diversa dall'altra, che non ho il tempo ovviamente di commentare, avevano comunque prospettato la necessità quindi di dare esecuzione a questa sentenza e di non applicare il giudicato della Cassazione che aveva affermato appunto la necessità di disconoscere l'immunità. Ebbene, quello che dico oggi è questo: in applicazione della teoria dei controlimiti, io mi auguro che ci sia un giudice che ponga la questione di costituzionalità di questa legge, perché è evidente che se vogliamo dare all'articolo 24 della Costituzione il valore che merita, di principio fondamentale del nostro ordinamento, io ritengo inconcepibile che una volta che si sia rifiutato il giudice tedesco di dare ingresso alle ragioni dei ricorrenti, una volta che il giudice italiano non può intervenire perché c'è una legge che glielo impedisce, appunto, ebbene questa legge in qualche modo va interpretata, a mio avviso, nella maniera per cui non si possa comunque derogare a questi principi fondamentali. Quindi io credo che in questo caso un'applicazione dei controlimiti si impone per non lasciare senza giustizia, appunto, coloro che ricorrono in relazione a vicende che, come è stato riconosciuto dalla stessa Corte internazionale di giustizia, configurano dei crimini internazionali dello Stato e degli individui, appunto, che hanno operato queste condotte. A proposito poi della è stato detto che ci si augura una sentenza Fanged Laws anche in materia per quanto riguarda appunto lo spazio di sicurezza, polizia eccetera, nel territorio europeo. Io però mi auguro invece una sentenza Granital nell'ordinamento italiano per quanto riguarda la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Cioè quel percorso che ha fatto la Corte Costituzionale dal 63, sentenza appunto della Corte di Giustizia dell'Unione, all'84, sentenza Granital, io mi auguro sia il percorso magari un po' più breve che farà la nostra Corte Costituzionale, perché con le due sentenze gemelle del 2007 la Corte Costituzionale italiana sostanzialmente ha detto che non si può dare la stessa valenza al diritto della Convenzione Europea rispetto a quello che si fa con il diritto dell'Unione, perché non esiste un ordinamento sovranazionale, non c'è cessione di sovranità. Ora, sicuramente non c'è cessione di sovranità, ci sono delle limitazioni di sovranità per far sì che funzioni questo ordinamento della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Ma io però, anche alla stregua di uno sguardo, per così dire, di tipo comparato su altri ordinamenti, non vedo perché sia necessaria la cessione di sovranità per poter dare al giudice, al singolo giudice, la possibilità di applicare direttamente, laddove è possibile, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, anche in presenza di una norma interna confliggente, quando questa norma interna confliggente, come avviene in molti casi, semplicemente, faccio un esempio, l'articolo 8 della Convenzione in materia di diritto di famiglia, di valori, anni fa un giudice del Tribunale di Napoli mi chiese ma io come posso fare di fronte ad un provvedimento del questore di espulsione, perché non, diciamo, con ritardo il cittadino extracomunitario aveva ottemperato agli obblighi di legge per restare nel territorio, quando però in effetti, anche se non c'è ancora il congiunto familiare, ci sono degli interessi familiari, c'è una moglie, c'è una cosa. Come posso fare il bilanciamento? Dico, vabbè, allora tu nella tua sentenza applica l'articolo 8, il problema è della Corte Costituzionale, questo dice la Corte, certo, la Corte dice questo, la Corte Costituzionale. Io però mi permetto di dire, forse non è sempre indispensabile, a meno che, cioè un minimo di, come si fa in altri ordinamenti, un minimo di discrezionalità nel giudice interno, secondo me andrebbe riconosciuto nella possibilità di far prevalere la norma della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Secondo me ci si arriverà, però certo. D'altra parte io ricordo nell'84, quando ci fu la sentenza Granital, ci fu una sollevazione dei costituzionalisti italiani, non so il Presidente Onida, però i costituzionalisti italiani dissero ma come, si passa al controllo di costituzionalità diffuso, ma come, per noi internazionalisti, diciamo, non fu una cosa, anzi, ricordo quando la Pergola telefonò all'Istituto di Diritto Internazionale per parlare con il mio maestro, il professor Conforti, e disse abbiamo accolto le tue tesi, disse la Pergola, ma la Pergola era abbastanza isolato in quel momento, perché la maggior parte dei costituzionalisti italiani dicevano no, non si può fare, non si può seguire la Corte di Giustizia su questo fatto. Io ripeto, mi auguro che invece lo si faccia anche per la Convenzione Europea. Un ultimo punto di carattere generale: il bilanciamento finale. Chi fa il bilanciamento finale, soprattutto appunto quando si è parlato di dialogo ed eventualmente di contraddizioni fra le corti dell'Unione Europea, Corte Europea dei diritti dell'uomo, Corte Costituzionale dei Paesi membri? Beh, è chiaro che ogni Corte Suprema è il dominus nel suo proprio ordinamento, cioè l'ultima parola rispetto al proprio ordinamento ce l'ha il giudice di quell'ordinamento. Perché d'altra parte delle situazioni difformi ci possono essere, ci devono forse essere. Faccio due esempi molto conosciuti. Il primo, la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Hannover contro Germania, che la Corte Costituzionale tedesca aveva giudicato in modo totalmente difforme. Qual era la questione? Caroline di Monaco, che era stata fotografata con i bambini, eccetera. Che cosa prevale, il diritto all'informazione o il diritto alla privacy? Ecco, nel caso della Corte Costituzionale tedesca si decise in un modo, nel caso della Corte Europea dei diritti dell'uomo si decise nel senso diametralmente opposto. Oppure vogliamo parlare del caso Punta Perotti in Italia. La Corte Europea dei diritti dell'uomo benemerita, ma vede, e forse anche è un bene, vede solo il diritto del singolo, il diritto fondamentale del singolo. Una visione più ampia gli è preclusa, ma è quella che invece ha lo Stato. La funzione sociale della proprietà sta scritta nella Costituzione italiana, non sta scritta però nell'articolo primo, del protocollo primo della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. E quindi di lì, diciamo, una decisione, quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che noi che conosciamo un po' meglio le cose, diciamo, di casa nostra, abbiamo digerito male, perché diciamo, come si può dare ingresso alle ragioni magari di chi ha cementificato il litorale italiano. E però, diciamo, la logica è quella. Quindi ecco perché ben venga appunto la teoria dei controlimiti, ben venga appunto questi eventuali contraddizioni, però appunto con l'esigenza di dialogo a cui si faceva prima riferimento, per poi cercare dei punti. È chiaro che la tutela per equivalenti, quella del caso Bosphorus, è chiaro che anche quella, cioè dare una corsia preferenziale, anche quello lascia un po' sconcertati. D'altra parte, se vogliamo, anche quella è un'applicazione della teoria dei controlimiti da un certo punto di vista, anche se, ripeto, forse non soddisfa questo voler dare assolutamente al sistema dell'Unione Europea questa prevalenza. Siamo quindi in un momento non facile della tutela dei diritti fondamentali in Europa, in particolare nell'Unione Europea. La sentenza del 16 ottobre 2012, Ungheria contro Repubblica Slovacca, è una sentenza abbastanza sconcertante anche questa, cioè il presidente ungherese Solyom, che viene invitato da esponenti, diciamo, della Repubblica Slovacca a festeggiare sostanzialmente il giorno dell'occupazione della Cecoslovacchia, e gli viene negato l'ingresso. Costui ovviamente fa ricorso, c'è la libera circolazione, e qui c'è un interessante discorso che fa la Corte sui rapporti fra diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea, cioè dice il capo di Stato non è soltanto un cittadino qualunque dell'Unione, è un capo di Stato, quindi ha tutti i privilegi, le prerogative, le immunità e anche eventualmente dei limiti, cioè una figura particolare, per cui in applicazione del diritto internazionale io faccio una deroga alla libertà di circolazione, e quindi qui io credo che la deroga alla libertà di circolazione probabilmente ci sia tutta, anche se non è una pagina edificante della tutela dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Viceversa, altri episodi, e qui vengo nello specifico a due vicende di cui voglio molto brevemente soffermarmi, perché riguardano appunto l'oggetto del mio intervento. Il primo è quello della vicenda franco-italiana, quando l'Italia in deroga appunto, o meglio in applicazione o in presunta applicazione della, della, delle regole Schengen, ha dato nell'aprile del 2011 questo permesso temporaneo ai cittadini tunisini in particolare che venivano dalla riva sud in conseguenza degli avvenimenti della primavera araba. Ora, è evidente che Schengen che cosa ha fatto? Schengen ha trasformato, come è noto, i confini esterni degli Stati membri in confini esterni del territorio dell'Unione Europea, ma questo ha dato una responsabilità ovviamente agli Stati esterni, ma ha dato anche una responsabilità agli altri. È un gioco, è un compromesso che è stabilito sulla base di che cosa? Sulla fiducia innanzitutto fra gli Stati e sull'attività di controllo. Il controllo va fatto non solo nell'esclusivo interesse dello Stato membro che lo effettua, ma nell'interesse di tutti, e tutti si fidano, per così dire, di questo controllo. Allora, questo stato di emergenza umanitario dichiarato in Nord Africa al fine di contrastare il flusso eccezionale di migranti sul territorio italiano, così è stato qualificato, ha portato a questo permesso temporaneo. Permesso temporaneo che, a mio sommesso avviso, se lo analizziamo, diciamo, dal punto di vista formale, non ha nulla di illegittimo dal punto di vista delle regole Schengen. Quello che è illegittimo è lo scopo che ne ha alla base. Perché lo scopo qual è? Lo scopo è semplicemente ponti d'oro al nemico che fugge, cioè facciamo sì che questi, come sono entrati, entrano dalla porta, escono dalla finestra, sono entrati dalla riva sud e possano in qualche modo fluire, ecco, verso la Francia, la Germania, eccetera. Quindi d'altra parte va detto anche che la risposta francese è altrettanto discutibile, perché fare affidamento sul concetto di ordine pubblico, perché solo su questo si può fare leva per appunto in qualche modo limitare l'efficacia di questo provvedimento, problema di ordine pubblico eccezionale, di emergenza, di proporzionalità, questi sono i requisiti, rispetto dei diritti fondamentali e non discriminazione. Ma noi, se guardiamo un attimo i numeri, e io da qualche parte li ho segnati, noi stiamo parlando di 28.000 circa persone, di cui 23.000 tunisini e 5.000 libici, che sono arrivati in questo periodo in Italia. Alla frontiera di Ventimiglia si sono presentate circa 400 persone. I dati ci dicono che alle frontiere esterne dell'Unione ogni settimana entrano 2 milioni di cittadini non comunitari, non dell'Unione. Nel 2009 ne abbiamo avuto 105 milioni, di cui 61 milioni sono entrati senza visto. Quindi la vera emergenza certamente non era questa, la vera emergenza è quella che dovevamo, e non abbiamo, cosa che non abbiamo fatto, gestire, l'emergenza sud-sud, cioè l'emergenza di coloro che dalla Tunisia premevano verso la Libia, verso i paesi, diciamo, vicini. Quindi da questo punto di vista, ripeto, certamente i requisiti, la leale cooperazione, insomma tutti quei requisiti di cui parla sia il Trattato sull'Unione sia il Codice Schengen, non erano certamente legittimi dare una appunto validità anche alla risposta francese. Quindi da questo punto di vista ben venga appunto questo tentativo che la Commissione sta portando avanti di modifica del pacchetto Schengen. Una parola conclusiva su Frontex. Ecco, Frontex, quali problemi dà Frontex oggi? Il problema è che spesso Frontex, nella sua attività di agenzia appunto che si occupa del controllo alle frontiere esterne, è andata oltre il mandato, cioè oltre il regolamento istitutivo, soprattutto in queste operazioni congiunte che ha fatto in alto mare e nel mare territoriale, anche in territori come il Senegal, la Mauritania, cioè stiamo parlando anche di territori molto lontani dai confini dell'Unione. Ora, una sentenza molto importante che non riguarda Frontex, ma in una certa misura riguarda anche Frontex, è quella IRSI contro Italia del febbraio del 2012. Perché? Perché lì la Corte, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che cosa ha detto in quella sentenza? Ha detto, attenzione, che non vale troppo restringere il campo di applicazione delle regole in materia di asilo, non respingimento, eccetera, al territorio in senso stretto degli stati membri. Attività di respingimento fatte in alto mare non sfuggono per questo all'applicazione delle... E questo è molto importante anche per quanto riguarda l'attività di Frontex, perché Frontex alle volte si è nascosta o è stata nascosta dietro questa specie di cortina fumogena di un'agenzia che non si sa bene a chi risponde, che responsabilità specifiche ha. E questo sia dal punto di vista appunto del territorio dove compie le sue azioni, sia per quanto riguarda anche diciamo la differenziazione rispetto agli stati membri della sua responsabilità. E qui appunto la vera riforma dovrebbe essere quella di chiarire finalmente quali possibilità, al di là diciamo del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che lo prevede l'articolo 163 per le agenzie in generale, l'azione di annullamento degli atti, però qui poi si aprirebbe la questione, l'atto di Frontex qual è, perché diciamo sono dei documenti o delle iniziative di azioni che spesso non è facile qualificare giuridicamente. E poi il problema del risarcimento. Quindi c'è un problema di deficit democratico di Frontex. Ora, su tutte queste agenzie, qui concludo, a mio avviso dovrebbe funzionare quello che prima è stato evocato, il margine di apprezzamento, ma alla rovescia, se mi consentite, cioè tutto quello che riguarda l'azione, per così dire, internazionale dell'Unione Europea dovrebbe essere lasciata ad una sorta di margine di apprezzamento delle istituzioni dell'Unione, margine di apprezzamento che come ogni margine di apprezzamento dovrebbe essere limitato da ovviamente diciamo indicazioni di massima, normative, criteri di massima e controllo di due tipi, controllo giurisdizionale ma controllo anche a livello di parlamenti, vuoi parlamenti nazionali, vuoi anche Parlamento europeo. Questa è stata la proposta che si fece in quell'incontro al Parlamento europeo nell'ottobre del 2011 al quale partecipammo, e insomma io mi auguro ancora che possa essere una come dire un suggerimento che insomma magari se diciamo si continua, se continua la discussione su questo rapporto fra azione degli Stati membri, azione delle agenzie, azione delle istituzioni dell'Unione Europea possa aiutare, perché io credo che l'unica via sia quella, come al solito prima si è parlato di equilibrio di interessi, equilibrio di valori, eccetera, quello di equilibrare un pochino le azioni degli uni e degli altri, quindi le istituzioni che ovviamente hanno il polso della situazione internazionale dell'Unione Europea, però anche appunto i parlamenti nazionali, laddove ovviamente continuano, come ancora è, ad avere peso in queste materie, e il Parlamento europeo, oltre ovviamente agli organi di giustizia. Grazie. Credo che l'ultimo riferimento alle agenzie meriti a sua volta un seminario a parte. Pensate che soltanto dal 2002 a oggi si è passati da 10 a 32 agenzie, e le ultime agenzie hanno dei poteri che non hanno veramente nulla da invidiare, se non ancora maggiori di quelle delle agenzie federali americane, con un controllo e un contesto di verifica molto limitato e aleatorio. Passerei comunque la parola ora a Stefano Giubboni sul tema quale cittadinanza sociale europea nella nuova fase di integrazione economica, monetaria e politica dell'Unione Europea. Grazie per l'invito a questo importante seminario. Il mio tema non è, come dire, centrale rispetto all'oggetto tecnico della discussione, però come ha già ricordato autorevolmente Rodotà nel suo intervento precedente, si riconnette in maniera essenziale a questo tema, perché il problema, come dire, della legittimità democratica del processo integrativo europeo è strettamente, inscindibilmente, direi sempre più drammaticamente connesso alla effettività della cittadinanza sociale europea come precondizione classica di godimento, di esercizio degli stessi diritti di libertà. La classica concezione accolta anche nel nostro impianto costituzionale, appunto, dei diritti sociali come precondizione stessa dell'effettività dell'eguaglianza nel godimento dei diritti civili e dei diritti politici. Io vorrei svolgere il mio intervento lungo due linee, diciamo, di discussione. Una che intitolerei alla dimensione transnazionale della cittadinanza europea, che è la dimensione propria in realtà, come dire, la dimensione istituzionale della cittadinanza europea, cioè la dimensione relativa all'accesso dei diritti sociali su base transnazionale, cioè sulla base di una situazione che implica un collegamento con l'ordinamento comunitario e classicamente una situazione di attraversamento dei confini. L'altro aspetto che vorrei discutere è invece quello anche della dimensione sovranazionale della cittadinanza europea, cioè dei contenuti sostanziali in termini di garanzie sociali, di protezione sociale, collegati vuoi in via di integrazione negativa, vuoi in via di integrazione positiva al processo di integrazione europea. Il primo aspetto, qui a 3 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, devo dire che la Corte di Giustizia continua in un'opera, se vogliamo, di manutenzione di alcuni principi importanti affermati a partire dalla fine degli anni 90. Manutenzione di due, direi, principi innovativi affermatisi ormai qualche anno fa, ma che continuano a generare effetti di tutto rilievo e sicuramente positivi in termini di arricchimento del patrimonio dei diritti dei cittadini europei. Il primo è quello, se vogliamo, della fondamentalizzazione dello status di cittadino dell'Unione Europea, dopo le note sentenze Zambrano e McCarthy del 2009. La domanda fondamentale a cui la Corte di Giustizia sta rispondendo con una certa cautela ma con aperture significative è quella se lo status di cittadino europeo, in quanto status destinato a divenire status fondante, fondamentale all'interno dell'Unione, possa essere protetto anche in situazioni in cui il cittadino non ha fatto ancora uso della propria libertà di circolazione. E qui la Corte di Giustizia, devo dire, dopo le significative aperture della sentenza Zambrano, che era stata preceduta da una elaborata, sofisticata opinione dell'avvocato generale Sharpstone, ha mantenuto, come dire, spazi significativi in questa direzione, che però evidentemente ancora la Corte di Giustizia non ha interamente deciso di percorrere, ma la mantiene aperta come prospettiva importante. Uno degli ultimi esempi in questa direzione è una sentenza pronunciata nel settembre del 2012 in cause riunite 356-11, 357-11, in cui la Corte ricorda che appunto la situazione di un cittadino dell'Unione al quale, come è avvenuto nel procedimento principale che ha determinato il rinvio pregiudiziale, non abbia ancora fatto uso del suo diritto alla libertà di circolazione, non può essere assimilata per questa sola ragione a una situazione puramente interna. Quindi qui la Corte di Giustizia supera ormai in maniera abbastanza netta, come dire, la vecchia dottrina delle situazioni puramente interne, riconosce allo status di cittadinanza dell'Unione una rilevanza costituzionale che prescinde dall'esercizio effettivo di questa libertà di circolazione. È anche vero però che la Corte al momento si dichiara pronta, come dire, a proteggere questa situazione che prescinde, ripeto, dall'esercizio effettivo di una libertà di circolazione solo in casi eccezionali, cioè solo in casi estremi, cioè solo nei casi in cui la mancata protezione della situazione giuridica, normalmente si tratta di ipotesi di ricongiungimento familiare o anche di accesso a diritti e prestazioni sociali, la mancata protezione di questa situazione rischia di pregiudicare in futuro e in maniera radicale la effettività del principio di cittadinanza dell'Unione, cioè rischia di privare la mancanza di tutela la efficacia pratica della cittadinanza dell'Unione, come ha detto la Corte di Giustizia in questa occasione. Sono situazioni marginali ma potenzialmente molto significative, che hanno effettivamente già portato alla tutela di situazioni rilevanti, ad esempio sul piano della disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini non comunitari o ancora anche sul piano dell'accesso ai diritti sociali. L'altra dimensione rilevante a cui accennavo prima sul piano transnazionale della cittadinanza sociale europea è quella in cui la Corte di Giustizia continua a assicurare con molta determinazione, per così dire, la protezione e ad assicurare la garanzia di portabilità dei diritti sociali nello spazio comune, o ad assicurare l'accesso su basi paritarie ai diritti sociali negli stati sociali nazionali. Questa è importante perché in tempi di crisi, come questo, la garanzia di una attraversabilità dei confini politici e simbolici degli stati sociali nazionali, l'apertura all'altro, allo straniero, e la garanzia di questa apertura, dà messaggi fondamentali sulla tenuta di alcuni capisaldi del processo di integrazione europea. Quindi il fatto che la Corte di Giustizia, in tempi come dire, di rigurgiti populistici sulla difesa dei confini solidaristici nazionali contro l'accesso dell'altro, continui a presidiare con fermezza questi principi, costituisce sicuramente un messaggio importante e molto rassicurante. Qui c'è una giurisprudenza tradizionale, una causa recente decisa dalla Corte di Giustizia, ad un certo interesse a questo riguardo, è la causa Prete contro la causa Deborah Prete, una causa decisa nel luglio del 2012, la 367 del 2011, è molto interessante perché lì veniva per l'ennesima volta in discussione una importante prestazione sociale belga, la indennità di disoccupazione ai giovani in cerca di primo impiego, e la Corte di Giustizia ha avuto modo in questa occasione di ricordare che il principio di parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali è riservato non soltanto ai lavoratori, ma anche ai soggetti in cerca di occupazione, e che il controllo di proporzionalità sulla misura restrittiva nazionale va esercitato con il rigore che si impone tutte le volte in cui si limiti appunto una libertà fondamentale. È importante ricordarlo perché, ripeto, riguarda un caso di attraversamento delle frontiere nazionali per cercare un impiego in tempi appunto in cui distribuzione assai asimmetrica della crisi economica all'interno dell'Unione evidentemente incoraggia l'esercizio attivo di questa libertà di circolazione in moltissimi casi. Invece a soffrire è la dimensione sovranazionale. Perché? Perché a 3 anni da Lisbona si è consolidato nel panorama dell'azione pubblica dell'Unione Europea in materia sociale un quadro che sostanzialmente rinuncia alla via della politica sociale di armonizzazione, cioè rinuncia in buona sostanza alla fissazione di standard di protezione minima dei diritti sociali. E nello stesso tempo, questo è il punto decisivo, a 3 anni dall'entrata in vigore del trattato e nel pieno rompere della crisi economica sociale, espone i livelli di garanzia stabiliti dagli ordinamenti nazionali alla pressione e ai vincoli deregolativi che vengono direttamente imposti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Il panorama istituzionale a 3 anni dal Trattato di Lisbona, l'architettura in particolare dell'Unione Economica e Monetaria Europea, è totalmente sconvolta. Totalmente sconvolta perché in maniera surrettizia, per così dire, innanzitutto si è preso atto del fallimento del modello di Maastricht, che prevedeva, accanto a una piena unificazione monetaria e quindi a una attribuzione a livello federale, con i poteri propri federali, della gestione della politica monetaria, una sostanziale libertà e autonomia fiscale degli Stati membri, sostanzialmente la possibilità degli Stati membri di gestire le proprie politiche fiscali e quindi anche le proprie politiche sociali, con un ampio margine di autonomia, soltanto evidentemente temperato dal rispetto dei vincoli stabiliti dallo stesso trattato di Maastricht. Quel presupposto si è sgretolato con la crisi dei debiti sovrani e i rimedi che sono stati introdotti negli ultimi anni sotto la forza di pressione della crisi hanno, come dire, ricreato un quadro istituzionale ancora fortemente asimmetrico, se vogliamo ancora più asimmetrico di quello che si è sgretolato appunto con l'impianto di Maastricht. Perché? Beh, innanzitutto perché evidentemente le misure di emergenza e di contrasto alla crisi sono tutte state assunte al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione Europea, con la sola eccezione del primo fondo comunitario istituito con regolamento, ma con una dotazione finanziaria assolutamente insufficiente, lo European Financial Stability Facility prima e il meccanismo europeo di stabilità permanente sono strumenti costruiti con lo strumentario del diritto internazionale, sono trattati internazionali, e con un metodo intergovernativo che, come dire, si impregna di elementi privatistici assolutamente inediti rispetto al panorama tradizionale. Lo European Financial Stability Facility è stato costituito come società di diritto privato con sede in Lussemburgo. La cosa sorprendente è che nell'atto costitutivo si è richiamata l'applicabilità del diritto inglese in caso di della legge inglese in caso di come dire, controversie e problemi di diritto internazionale privato. Quindi, come dire, un ritorno ad un a metodi intergovernativi, se volete, esasperato da una logica, diciamo, di privatizzazione della risposta pubblica a domande sociali e a questioni essenziali di governo democratico dell'economia e della società. Non diversa, naturalmente, è la strada che è stata intrapresa sul piano del superamento di quel limite decisivo di Maastricht che era costituito appunto dalla relativa autonomia delle politiche fiscali degli Stati membri. Qui il patto di stabilità, il Fiscal Compact, che è pure un trattato internazionale, di cui si auspica semplicemente, non so con quale realismo, l'innesto nel quadro istituzionale dell'Unione Europea, ancora una volta, da un lato, ripeto, fa affidamento alle risorse del metodo intergovernativo, marginalizzando in buona sostanza la presenza del Parlamento, lo stesso controllo del Parlamento europeo. E dall'altro lato, dicevo, riproduce su una dimensione nuova le asimmetrie che avevano condannato il compromesso di Maastricht al fallimento che si è verificato sotto la crisi. Perché, come dire, ci proietta nel peggiore dei mondi possibili, come ha scritto recentemente Fritz Scharf, perché ci tiene lontani da un assetto di tipo federale, visto che non si parla minimamente della prospettiva della costruzione di un budget federale con capacità quindi di risposta in caso di crisi, anche in termini, diciamo, di funzioni classiche di stabilizzazione automatica del ciclo economico da parte dell'Unione Europea. E nello stesso tempo però impone sugli Stati membri gli stessi assorbenti vincoli che hanno le unità di un sistema federale in tema di politiche fiscali o di politiche di bilancio. Quindi, come dire, supera i limiti di Maastricht sostanzialmente federalizzando, tra virgolette, ma solo in termini punitivi, in termini sanzionatori, in termini negativi, la politica fiscale degli Stati membri. Questa rimane una responsabilità degli Stati membri in mancanza di strumenti di solidarietà europea, ma nello stesso tempo è interamente assoggettata a vincoli, a divieti, a regole molto restrittive e assistite ormai da meccanismi sanzionatori pressoché semiautomatici con la maggioranza qualificata rovesciata che sono interamente stabiliti dal livello di governo dell'Unione Europea. Lo ricordava Rodotà, questo ha comportato in questi anni una caduta di protezione drammatica del livello dei diritti sociali, non soltanto dei diritti sociali di prestazione. Questo è evidente soprattutto negli Stati che hanno dovuto fare ricorso all'assistenza finanziaria, sottoscrivendo i famosi memorandum of understanding, cioè sostanzialmente patti che subordinano a strettissime politiche di condizionalità nelle riforme strutturali, nella riduzione del deficit, del debito pubblico, l'accesso appunto all'assistenza finanziaria, dei meccanismi istituiti a livello europeo. Quindi in realtà il nuovo impianto istituzionale è connotato da una logica non di solidarietà europea, ma di stretta condizionalità europea. Si esclude sostanzialmente la costruzione di una capacità di risposta e anche di risposta alle domande sociali a livello comunitario, e nello stesso tempo si aumentano i limiti e i vincoli sugli stati nazionali. La situazione quindi è fondamentalmente questa, ed è una situazione che evidentemente richiede risposte che questa volta non possono venire sul versante, direi, della tutela giurisdizionale dei diritti per definizione, perché questa è una dimensione che ormai sfugge completamente a quel tipo di orizzonte. La stessa Corte di Giustizia, come dire, lo ha autodichiarato, ritenendo inapplicabile i principi della Carta alla materia nuova degli strumenti di assistenza finanziaria. Qui è necessaria una risposta della politica europea, però evidentemente questa è la risposta che manca. Veniamo all'ultimo intervento della seconda parte, che sarà in francese, del professor Henri Labaille, al quale chiedo di parlare con una certa lentezza in modo che si possa seguire tutto lo sviluppo del suo discorso. Bien, merci Emilio d'avoir précisé que mon intervention serait en français. Le patrimoine culturel que nous avons en commun m'a permis de comprendre les interventions de toute cette matinée et de les apprécier, notamment la vôtre, hein, à l'instant, qui pose de très sérieux problèmes. Je voudrais d'abord remercier notre hôte à la Fondation Basso pour avoir organisé à ce moment-là cette table ronde sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne en matière d'espace de liberté, de sécurité et de justice, et admirer notre président de séance, Emilio, qui a réussi à faire tenir les horaires d'une manière remarquable, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas appliqué à lui-même, hein, les règles qu'il nous inflige, et donc je vais essayer de rester dans le laps de temps qui nous a été proposé. Très simplement, la mise en œuvre du traité de Lisbonne comme une course de chevaux, d'obstacles, dressée trois séries d'obstacles, je crois, à l'Union européenne pour parvenir à la normalisation qui a été envisagée par les auteurs du traité. Premier obstacle, j'irai très vite sur ce point, est de nature institutionnelle. Deuxième obstacle est de nature normative. Le troisième obstacle est de nature opérationnelle. Et j'insisterai un peu plus sur les deux derniers. L'obstacle de nature institutionnelle, même si je n'en parle pas, n'est pas le moins sérieux à franchir. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, c'est l'apparition de nouvelles règles du jeu qui vont commander l'intervention de l'Union européenne. La co-législation avec le Parlement européen, le partage de l'initiative, ces mécanismes très particuliers et dus à nos amis britanniques tels que l'emergency brake, le frein d'urgence, hein, qui menace de conduire au tête à queue immédiatement. Donc, tout un panorama en matière de fabrication du droit qu'il faut évaluer et qu'il va falloir mettre en œuvre. Deuxième nouveauté institutionnelle, la définition d'un nouveau jeu entre les acteurs. Clairement, la négociation au sein du triangle institutionnel ne va plus du tout être menée comme elle pouvait être menée par le passé, aussi brillamment qu'elle a pu l'être avec des acteurs comme Lorenzo Salazar, hein, les choses vont être vraisemblablement plus compliquées, et il n'est pas du tout certain d'ailleurs que la Commission puisse encore y tenir le rôle qu'elle tenait par le passé, les deux acteurs en présence, que sont le Conseil et le Parlement, de mon point de vue, finiront par l'emporter. Et puis, l'apparition de nouveaux acteurs dont il faudra savoir ce qu'ils pèsent exactement. Nous avons bien vu que la Commission ne pesait plus grand-chose et c'est le début d'un déclin, je le crains, hein, depuis le départ du commissaire Vitorino. Clairement, la Commission, pas à pas, est en train de reculer dans le dispositif et la séparation des deux portefeuilles, de ce point de vue, n'est peut-être pas une bonne chose, tout comme l'espèce de tour de prestidigitation qui a consisté à faire apparaître le Home Affairs, très anglo-saxon, hein, entre les mains d'une commissaire suédoise, n'est pas une victoire pour l'état des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Et puis on verra bien si les mécanismes d'évaluation, hein, que les États ont voulu se réserver produiront des conflits ou au contraire amélioreront les choses. Donc, de nouveaux jeux d'acteurs. Et puis, troisième élément à intégrer, comment allons-nous vivre la banalisation de l'espace de liberté, de sécurité et de justice à la fin de la période transitoire? Et de ce point de vue, la présidence italienne sera, comme le titre d'un film d'autrefois, la présidence de tous les dangers. Présidence de tous les dangers, d'abord parce que le traité le prévoit. Apparition du recours en manquement. Ça va tout changer en matière d'évaluation. Généralisation de la procédure préjudicielle. La Cour de justice, dont vous nous avez parlé, va être propulsée au premier rang. Limitation ou acceptation des positions d'opt-out. Et puis surtout, perspective ouverte par la déclaration britannique du 15 octobre de l'année dernière de faire jouer l'opt-out en matière de justice et d'affaires intérieures. Elle veut sortir par la porte pour revenir par la fenêtre, mais la fenêtre restera-t-elle ouverte? Autant de questions, hein, qui, sur le plan institutionnel, conditionnent quand même beaucoup. Les deux questions sur lesquelles je voudrais m'apesantir un peu plus, c'est-à-dire la question normative et la question opérationnelle. La question normative, d'abord, c'est un vrai défi qui se présente à l'Union européenne que, à mon avis, d'affronter trois difficultés que je pointe, et j'en garderai une seule, celle sur la reconnaissance mutuelle. La première difficulté, on y a fait allusion tout à l'heure, avec vous, Monsieur Perillo, très clairement, il va falloir que l'Union européenne clarifie un peu son discours et ses pratiques et qu'elle nous dise comment elle va gérer la subsidiarité normative qui a été inscrite dans le traité, à la fois pour savoir ce que veut dire cette subsidiarité et en même temps savoir quelle en est la portée, quel en est l'impact. Une chose est de venir nous expliquer que la culture et les traditions judiciaires des États membres doivent peser lourd. C'est une excellente chose. Mais il va falloir en tirer les conséquences à un moment ou à un autre. Et il va falloir dire à partir de quel moment la subsidiarité commande et à partir de quel moment c'est l'intérêt collectif et l'intérêt des citoyens de l'Union européenne qui commandent. Si la subsidiarité doit aboutir à rompre l'égalité entre les citoyens de l'Union européenne, il y a un problème majeur pour l'Union. Et de ce point de vue, la perspective de l'opt-out britannique pose pour les droits des citoyens britanniques des questions tout à fait sérieuses. Hein. Je sais que c'est une idée qui est chère à Emilio. Donc, gérer la subsidiarité normative. Quel sens et quel degré aussi donner à un certain nombre de mots qui sont portés par le traité? Voilà, l'article 82, le rapprochement des législations, comment y procéder? On a fait le choix de la directive. L'article 82 ne disait rien à ce sujet. Il nous disait on va fixer des règles. On n'a pas pris le choix de la règle à effet direct, qui est le règlement. On a fait le choix de la directive, qui montre bien que la subsidiarité est au cœur du dispositif de rapprochement. Mais jusqu'à quel degré? C'est encore à définir et rien n'est clair de ce point de vue. Deuxième difficulté qu'il va falloir pointer, vous en avez longuement parlé, donc je n'en dis mot, mais il va falloir à un moment donné aussi que l'espace de liberté assume les principes fondateurs du droit de l'Union européenne, que sont la règle de primauté, le refus de la réciprocité et la thèse de l'effet direct ou, si ce n'est l'effet direct, du moins de l'invocabilité directe par les citoyens de l'Union européenne du bénéfice que leur donnent les règles du droit de l'espace de liberté. Et là, les difficultés sont considérables. Ça n'est pas un hasard si, quand on regarde la doctrine anglo-saxonne, l'arrêt de la Cour qui est le plus critiqué en matière d'espace de liberté, de sécurité et de justice, on en parlait tout à l'heure, c'est l'arrêt Pupino, qui ne dit rien d'autre qu'il y a une obligation d'interprétation conforme de la loi nationale aux règles du droit de l'Union européenne. Mais clairement, là, il y a une difficulté que la Cour de justice, et elle seule, devra affronter un jour, peut-être en prenant un nouvel arrêt van Genenlos, hein, mais ce sera plus compliqué de mon point de vue, puisque on se situe là dans un domaine de compétences partagées et non pas exclusives. Donc, assumer les principes fondamentaux. Et puis, trancher, c'est la grande difficulté, entre le souhait de voir l'espace de liberté, de sécurité et de justice qui est porteur de droits fondamentaux, continuer à constituer un domaine spécifique de l'action de l'Union européenne. Et puis en même temps, aller dans le sens de l'histoire, qui est celui du traité de l'Union européenne signé à Lisbonne, qui est celui de banaliser cet espace. Et donc, suivant l'endroit où le curseur se mettra entre la spécificité ou la banalité de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, eh bien, nous aurons des conséquences hein, tout à fait concrètes, tant sur le plan normatif, et je vais y venir à propos de la reconnaissance mutuelle, que sur le plan opérationnel. Car le troisième obstacle à franchir, même s'il est virtuel encore aujourd'hui, et c'est pour ça que j'irai beaucoup plus vite à son sujet, bah c'est évidemment le problème de l'action opérationnelle. Car ce qui caractérise l'espace de liberté, de sécurité et de justice aujourd'hui, et c'est tout à fait extraordinaire à observer comme phénomène, c'est que nous avons là un domaine où la souveraineté des États membres et bloque le plus souvent le dispositif à l'unanimité avec des guerres d'arrière-garde à longueur de temps et où en même temps l'Union européenne a été beaucoup plus loin que dans les schémas traditionnels d'administration du droit de l'Union européenne puisque s'il y a un domaine où les agences de l'Union européenne sont en train de se développer, Frontex, Eurojust, Europol, le Bureau européen en matière d'asile, demain peut-être le procureur européen. C'est précisément ce domaine où les États ne veulent rien lâcher. Hein, il y a donc un paradoxe congénital hein, dans la construction de cet espace de liberté qui est tout à fait surprenant et tout à fait passionnant. Alors, deux mots, si vous le voulez bien, à la fois sur le plan normatif et sur le plan opérationnel. Sur le plan normatif, la question centrale aujourd'hui, incontestablement, c'est la question qui est relative à la reconnaissance mutuelle. Et qui est tout à fait caractéristique de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, parce que, précisément, la reconnaissance mutuelle s'identifie dans les trois secteurs de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Bruxelles 2, Dublin, le mandat d'arrêt européen, voilà, trois manifestations, hein, de cette espèce de caractère génétique de l'espace de liberté, que le traité lui-même, à propos de l'espace répressif européen, souligne. Il nous le dit très clairement. L'entraide répressive entre les États est fondée sur la reconnaissance mutuelle. Voilà. Donc, comment gérer, comment construire cette reconnaissance mutuelle en alliant à la fois la recherche de l'efficacité, puisque tel est le but, le respect de la subsidiarité, puisque telle est l'inspiration de la reconnaissance mutuelle, et également le respect des droits fondamentaux. Et là, les problèmes qui se posent sont des problèmes tout à fait sérieux. De mon point de vue, en effet, l'inscription de la reconnaissance mutuelle dans le traité de Lisbonne correspond à un besoin étatique, satisfait un besoin étatique, mais ne prend manifestement pas en compte les exigences de la protection des droits fondamentaux. Et cette question, à un moment ou à un autre, va poser des problèmes très sérieux. Reprenons. La finalité de la reconnaissance mutuelle, on le sait, indépendamment des arrière-pensées politiques avec lesquelles les Britanniques ont voulu imposer la reconnaissance mutuelle, et tu t'en souviens, lorsque j'avais été auditionné par la Convention avec Gilles de Kerckhove et Vitorino dans le groupe de travail qui préparait le traité sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice, le président du groupe de travail, John Bruton, irlandais, insistait sur la reconnaissance mutuelle parce qu'on sentait vraiment qu'ils étaient prêts à beaucoup de concessions du moment que la reconnaissance mutuelle arrivait. Et on comprend pourquoi. Donc, laissons de côté les arrière-pensées de tel ou tel système qui espère se sauver parce qu'on met en avant la reconnaissance mutuelle plutôt que l'harmonisation du droit. Ce n'est pas ce dont je veux parler. Ce dont je veux parler ici, c'est que la reconnaissance mutuelle a pour finalité d'automatiser la réponse des États de l'Union européenne dans leurs relations mutuelles. Et c'est ça ce qui est important, en limitant les possibilités de refus. Dublin, le règlement de Dublin en matière de transfert des demandeurs d'asile en est typique. Je ne partage pas du tout l'avis de la Cour de justice qui prétend que le règlement Dublin est fondé sur la confiance mutuelle et sur la reconnaissance mutuelle. Il n'y a qu'à lire ce qu'elle n'a pas fait, les considérants du règlement Dublin, pour voir que le mot n'y figure pas. Le règlement Dublin, c'est un mécanisme d'articulation des compétences entre les États face à une obligation internationale qui est la Convention de Genève. Ça ne préjuge pas que l'on reconnaît mutuellement les décisions des uns des autres. Mais peu importe, la Cour a toujours raison, et c'est ce qu'elle a dit, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle fondent Dublin. Le mandat d'arrêt européen est typique de cette reconnaissance mutuelle. Et donc, cela signifie qu'en automatisant la reconnaissance mutuelle, vous risquez de porter atteinte à deux choses qui sont essentielles. La première chose, c'est la question des droits fondamentaux, bien sûr, et je vais y venir. Mais la deuxième chose, et cela fait partie des droits fondamentaux, notamment à Strasbourg, et notamment à propos des articles 5 et 6 qui concernent l'intervention du pouvoir répressif, liberté, procès équitable, la deuxième chose, c'est la proportionnalité. La rupture de la proportionnalité, en soi, est une atteinte aux droits fondamentaux. Et donc, sur ces deux terrains-là, automatiser la réponse de l'état d'exécution est susceptible de poser problème. La Cour de justice a validé très largement la mécanique de la reconnaissance mutuelle. Elle l'a validée en ce qui concerne ses rapports avec le principe de l'égalité, Advocaten, avec la clause de nationalité, Koslowski, avec la règle du nebis in idem, Mantello. Et aujourd'hui, plusieurs arrêts fondamentaux soit viennent d'être rendus, soit sont en passe d'être rendus. Ces arrêts, quels sont-ils? Celui qui vient d'être rendu, il a 4 jours, il a été rendu le 29 janvier, c'est l'arrêt Radou, qui est un arrêt extrêmement important. Pour quelle raison? Parce que était en cause un mandat d'arrêt européen émis en direction de la Roumanie pour renvoyer en Allemagne un ressortissant roumain qui avait plusieurs condamnations à son actif pour des actes de violence graves. Et le requérant fait valoir devant le juge roumain qui pose une question préjudicielle que, en amont, on devrait vérifier l'état des droits fondamentaux et la manière dont il va être traité en Allemagne et également l'entendre en Roumanie avant d'exécuter le mandat d'arrêt européen. En bref, il pose la question de la compatibilité du mandat d'arrêt européen avec les droits fondamentaux. Et là, la Cour de justice pouvait saisir une occasion. Cette occasion, elle l'a saisie, un peu forcée, en matière d'asile, dans un arrêt qui a été rendu il y a quelques mois, en 2012, l'arrêt NS, en matière de demandeurs d'asile, où elle appliquait une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, avait été beaucoup plus sévère, MSS, et où, grosso modo, la Cour européenne des droits de l'homme, d'abord la Cour de justice, ensuite, avait dit que la confiance ne se prête pas. Et que la confiance ne peut pas être aveugle. Et que donc, à partir du moment où l'on a en face de soi une violation systémique des droits fondamentaux dans un État membre, c'était le cas de la Grèce, on ne peut pas faire comme si. Et on doit refuser la confiance pour protéger les droits fondamentaux des individus qui sont en cause. Ce qui voulait donc dire, si vous voulez, pour faire court, que la Cour de justice avait admis l'idée d'une présomption réfragable, c'est-à-dire de la possibilité de revenir en arrière sur la présomption de confiance que l'on a envers un autre État. Et là, dans l'affaire Radou, son avocat général lui propose quand même d'aller un peu sur ce terrain. Pas aussi fort, parce que l'affaire Radou ne s'y prêtait pas, mais de dire que la protection des droits fondamentaux peut en soi poser un problème d'exécution. Et la Cour de justice répond non. Le respect des droits fondamentaux en soi ne constitue pas un motif de non-exécution d'un mandat d'arrêt européen. Pour quelle raison? Pour deux raisons. La première raison, il y a des dispositions propres aux droits fondamentaux à l'intérieur de la décision cadre. Et on doit en rester à cette lecture littérale de la décision cadre. Deuxième raison, l'effet utile du mandat d'arrêt européen. Si effectivement, par des moyens dilatoires, les délinquants doivent être entendus avant qu'on exécute un mandat, évidemment, ils vont partir dans la nature. Et donc, ces deux raisons font que la Cour referme la porte. Or, il y a aujourd'hui, rassure-toi Emilio, j'en ai encore pour 5 minutes, il y a aujourd'hui un arrêt qui va être rendu bientôt, l'arrêt Meloni, rendu sur des conclusions d'Yves Bott, qui pose aussi le problème de la relation entre droits fondamentaux et mandat d'arrêt européen, à propos de la possibilité d'être jugé une deuxième fois ou pas, et sur la base de cette jurisprudence, comme d'ailleurs des conclusions de l'avocat général Bott, il est très vraisemblable que la Cour va répéter à nouveau cette lecture restrictive du mandat d'arrêt européen. Donc, la reconnaissance mutuelle vue sous cet angle pose aujourd'hui incontestablement un problème, non seulement parce qu'elle privilégie la lecture des États sur la protection des droits des individus, mais parce qu'elle va créer une tension qui, à mon avis, n'est pas supportable à court terme, qui est la tension entre le niveau national de protection des droits fondamentaux, le niveau conventionnel de protection des droits fondamentaux, CEDH, et le niveau de l'Union européenne de protection des droits fondamentaux, puisque l'article 53 de la Charte nous dit bien que rien n'interdit ni aux États ni à l'Union européenne de prévoir une protection supplémentaire. Donc, cette espèce de tension qui est en train de s'établir autour du mandat d'arrêt européen, dont tout le monde reconnaît que c'est un mécanisme extraordinaire, qu'il faut maintenant régler un peu, parce que depuis 10 ans, on en voit les faiblesses et on en voit les avantages. Mais les statistiques montrent bien que c'est un outil extraordinaire. Donc il faut régler la question sur le plan des droits fondamentaux, comme sur le plan de la proportionnalité. Mais régler cette question-là impose d'aller plus loin dans l'harmonisation, et notamment de régler les problèmes procéduraux, car dans tous ces domaines-là, ce sont bien des questions procédurales. C'est bien la question des droits du prévenu qui est en cause. Et tant que le droit de l'Union européenne ne réglera pas d'une manière harmonisée ce problème-là, nous rencontrerons ces difficultés. Je conclus en un mot avec le niveau opérationnel et les perspectives du procureur européen. Vous avez face à moi un grand spécialiste de la question avec Lorenzo Salazar, que je soupçonne d'avoir pratiquement déjà écrit le statut du procureur. Donc je me bornerai simplement à poser quelques points de raisonnement. Je crois que aborder la question du statut de l'impact du procureur européen sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice, c'est un peu comme, vous savez, comme parler du sexe des anges, à supposer que les anges en est un, et donc on se borne à tirer des grandes perspectives sans trop savoir si on est dans la réalité ou si on n'y est pas. Tout va dépendre des réponses qui seront apportées à 3 questions. La première question, c'est le choix des modèles. Il y a une variété de modèles concernant le parquet ou le procureur, à la fois au plan international, la CPI, à la fois dans les juridictions nationales, qui est telle que beaucoup de choses dépendront des options qui seront portées. Personnel, un visage, un homme ou une femme, Et Dieu sait si vous savez ce qu'une femme peut faire dans une juridiction pénale internationale. Hein, donc, donner un visage. Hein, ce n'est pas du machisme, hein, Lorenzo. Hein, c'est un constat. Hein. Donc, donner un visage à un procureur, c'est tout à fait autre chose que conserver l'anonymat d'un collège. Et donc, les choix qui seront opérés, au-delà du symbole, donneront à l'institution un mécanisme, une force certainement différente. Deux, les pouvoirs, ou plus exactement, le statut, suivant que le parquet européen qui doit être créé à partir d'Eurojust conservera ou ne conservera pas, rompra ou ne rompra pas le cordon ombilical avec Eurojust, qui a une fonction collégiale, qui a des pouvoirs d'incitation, qui peut proposer, qui peut orienter, qui peut accompagner. Le parquet européen, lui, décidera, commandera, aura des relations hiérarchiques. Donc, suivant qu'on coupera ou pas le cordon ombilical, beaucoup de choses seront en jeu. Ce qui amènera à la troisième question, qui fait en même temps ma conclusion, qui amènera tout simplement à réfléchir aux fonctions de ce procureur, mais surtout à son positionnement dans l'architecture générale de l'espace répressif européen. Envisager un procureur européen doté de pouvoirs opérationnels, même si c'est dans un petit domaine un peu secondaire, la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, rien à voir avec la traite des êtres humains hein, ou la criminalité organisée, mais c'est un problème important, qu'on le veuille ou non, va poser le problème du contrôle d'abord de ce procureur européen. Et je vois difficilement comment ce contrôle ne devra pas établir une relation avec la Cour de justice de l'Union européenne. Et je vois difficilement comment la Cour de justice de l'Union européenne, à ce moment-là, ne pourra pas basculer dans une véritable judiciarisation de son traitement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, peut-être avec une chambre pénale, peut-être avec des mécanismes à imaginer, mais il y a là un effet d'entraînement que l'on ne peut pas nier en disant on va fabriquer quelque chose qui, comme avant, sera déconnecté du reste. Donc, premier problème qui est posé là est un problème très important pour l'architecture de l'espace de liberté. Deuxième problème, le contrôle. Qu'on le veuille ou non, ce procureur européen ou ce parquet européen devra entretenir des relations avec les institutions de l'Union, le Parlement, le Conseil. Quel degré d'indépendance? Quelle façon de rendre des comptes ou pas aux autres institutions? Quel type de procureur aurons-nous? Hein, un procureur à l'américaine qui doit se faire réélire régulièrement? Ou une institution pleinement judiciaire dotée de l'indépendance? Hein, les schémas, on le voit bien, amènent dans des directions différentes. Et puis enfin, dernier problème, ce procureur européen devra forcément avoir des relais dans les États membres, établir des relations avec les juridictions nationales. Et il est permis de se demander si justement une subsidiarité bien pensée, ce ne sera pas celle qui s'établira et l'articulation qui s'établira entre ce procureur européen et les juges nationaux qui sont les premiers acteurs de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.